Buongiorno a tutti e bentornati a G-Cookies, questo episodio numero 12 pre-natalizio. Con me c'è Mario, come al solito. Ciao Mario. Salve a tutti. E oggi faremo una chiacchierata sulla parte di editoria digitale, una cosa che ci premeva affrontare con voi perché è interessante, è un pezzo di futuro. E potrebbe essere di più, ma non è molto di più, visto che non ne sappiamo molto, l'abbiamo fatto con un'intervista. Mario, è vero che hai fatto tu l'intervista? Sì, confermo, con una persona che ne sa decisamente più di noi. Molto molto bene, è il nostro scopo, è quello di imparare noi e far sì che gli ospiti possano imparare anche loro. Ok, perfetto, non so, vogliamo parlare un po' della scaletta, diciamo, short di questo episodio? Sì, guarda, facciamo una introduzione rapida di quello di cui parleremo oggi. Oggi daremo una piccola news, vi diremo un po' come è andato il nostro podcast a livello di numeri, e poi ci sarà la ricetta di Valentina che torna, l'intervista con Fabrizio e poi spumante, panettone e chi più ne ha più ne metta. Cin cin. E speriamo che vada meglio della puntata scorsa, perché la puntata scorsa l'abbiamo buttata nel cesso causa problemi audio. Per chi non lo sapesse, siamo a un reprise, l'avevamo già fatta in maniera estesa, però purtroppo Babbo Natale non ce l'ha data buona, quindi... Diciamo, non ho capito se è Babbo microfono, Babbo mio Mac o le luci di Natale che lampeggiavano e che hanno fatto casino, però comunque è andata così. Allora, io direi di cominciare con la novità che i nostri ascoltatori già conoscono, che noi non ci aspettavamo, anzi forse non si aspettava nessuno, ed è stata la Raspberry Foundation che ha detto: attenzione, è uscito il Raspberry Pi 0. Mario, cos'è questo Raspberry Pi 0? Vabbè, diciamo che è un Raspberry naked, cioè hanno praticamente preso un Raspberry... La base, se non sbaglio, è un modello A+, praticamente, e hanno levato tutto il levabile. Fondamentalmente è un oggetto che è più piccolo di una carta di credito attualmente, un po' più lungo ma un po' più stretto, che ha su fondamentalmente solo il chip core che fa tutto, quindi vi butta fuori audio in Full HD, video in Full HD, audio, ha un ingresso USB, l'ingresso per le schedine e l'uscita per l'HDMI e l'ingresso power e basta. Però ha conservato tutte le uscite GPIO, quindi se volete fare qualsiasi cosa di integrazione con elettronica vera è molto interessante, ma diciamo la forza bruta di questo oggetto è che costa $4-5 in teoria se lo trovate. Io ho sentito in un podcast inglese ieri che la Raspberry Foundation ha postato su Twitter gente che è riuscita a venderlo a più di $120 su eBay, dato l'hype del momento, eccetera. È una roba folle. Possiamo dire che noi Geek Cookies siamo riusciti a accaparrarcene un paio nell'ultimo restocking la settimana scorsa, e stiamo aspettando ancora per poterveli presentare, però a breve ne avremo un paio da giocarci. Diciamo che li abbiamo acquistati con la cifra giusta, e soprattutto se li comprate dall'Inghilterra, attenzione che visto che gli inglesi non si fidano delle nostre poste, spediscono solo con UPS, quindi costa $5 sterline il dispositivo e 28 sterline la spedizione, non è proprio una cosa piacevole. Esatto, infatti abbiamo sfruttato il fatto che io sono in Germania, dove si fidano i tedeschi, ma hanno spedito per 3 sterline alla fine, 3 e mezzo. E quindi sapete che se io non avrò il mio Raspberry Pi 0 è perché Mario si è tenuto anche il mio, siete tutti testimoni. Bravo, ne avevo 3 o 4. Perfetto. Quell'idea. Volevo aggiungere solo su questa cosa del Raspberry, che consuma pochissimo, perché togliendo dispositivi ovviamente il consumo si è ridotto molto, che il GPIO non è montato, di conseguenza ci sono solo i fori per occupare ancora meno e per risparmiare quei 20 centesimi di plastica del connettore. Ma di meno. E poi che l'alimentazione adesso arriva da una micro USB, quindi è molto standard, e che l'uscita dell'HDMI è su una mini HDMI, quindi in teoria si compra la scheda, poi ci vorrà qualche adattatore per la USB e per vedere il video. Come ho letto giustamente in moltissimi forum, la maggior parte delle persone che ha intenzione di giocare con questa roba e ne ha un minimo di esperienza, un cavo USB ce l'ha, forse il micro HDMI no, però almeno tutti gli altri cavi, una micro SD è roba che già hai a casa praticamente. Sì, comunque con 8 sterline vi mandano la scheda con l'adattatore da micro USB a USB normale e da micro HDMI a HDMI normale, quindi... O fai come me, il computer dai cinesi, che in un paio di mesi mi arriveranno, però con prezzi molto più contenuti. E quindi ora non resta che pensare a cosa fare con questo dispositivo. Io stavo pensando di riempire casa di sensori, perché se costa davvero $5 costa meno di qualunque altro sensore messo in commercio. Anche meno di altre cose di cui parleremo. Cioè, secondo me sarà per rivoluzionare il mercato dell'IoT, perché tu hai un Linux da solo su un oggetto piccolissimo e consuma pochissimo e costa $5 è imbattibile. Cioè, imbattibile. Bisogna dire che anche tutti gli altri in questi giorni stanno facendo uscire un sacco di cose nuove. Non è oggi il giorno in cui ne parleremo, ma parleremo anche del nuovo Arduino, parleremo di un sacco di altre schede che ora stanno facendo concorrenza. Si sta riempiendo il mondo, come la casa domotica ora si riempie di standard che sono standard solo per i vari produttori, quindi la parte U di Philips, la parte di Apple, la parte di SmartThings, ora escono milioni di schedine e la cosa difficile poi è scegliere, perché tu ne scegli una, dici adesso lavoro su questa e dopodomani ne esce una che è più bella. Esatto, alla fine chi segue noi avrà seguito anche la storia della Philips, parlando a proposito di standard. Secondo me chi aderirà a uno standard più standard, senza cercare di fare le cose in casa, diciamo, sarà quello più utilizzato. A parte c'è anche la Philips, che ha un grosso controllo sul mercato su alcune parti come le lampadine, nonostante sia un colosso in quel campo, non è riuscito a fare quello che voleva in molte settimane di imporre una restrizione sull'utilizzo dei propri hardware, perché ovviamente gli utenti la trovano una cosa barbara. Cioè, tu non puoi partire da una cosa aperta e poi chiuderla, nessuno l'accetta. Beh, alla fine è il mercato che ti risponde, nel senso che tu decidi di fare questo ma poi non vendi più lampadine, magari hai capito che è la cosa sbagliata. Però hai fatto una figuraccia per i tuoi utenti, guarda. Assolutamente sì. Bene. Vabbè, questa è una cosa di cui parleremo approfonditamente. Nelle prossime puntate abbiamo intenzione di provarlo, di presentarvi una carrellata di tutti gli altri dispositivi. Se voi comprate tante cose su Amazon per noi, cioè con il nostro codice, noi possiamo comprare tante schede, provarle e farvi sapere come che vanno. Quindi se non avete fatto i regali di Natale su Amazon passando dal nostro link sponsorizzato, sentitevi un po' in colpa, ecco. E dai, vi perdoniamo. Forse. Potete vi rifate, esatto. Bene. Allora, direi di passare al secondo punto della scaletta di oggi, che è un po' riassunto, un come è andato questo nostro primo anno di podcast. Direi di passare la palla a Mario, perché è la persona che ha la gestione pratica dei numeri. Infatti se lui scappa con tutti i soldi che abbiamo fatto, può forse andare fino alla stazione di Berlino e rimanere fermo lì. Esatto, probabilmente posso comprare un biglietto di un autobus, ma non manco di quelli troppo lontani. Allora, come dicevamo prima, vogliamo fare un piccolo resoconto dell'ultimo anno. Ovviamente è un anno in podcast, nel senso che questo che stai ascoltando adesso è la 12ª puntata, anche se è passato più di un annetto. Noi ormai abbiamo aperto le porte a ottobre del 2015. No, scusa, il 2014, quindi è un po' più di un anno temporale, però dato che noi siamo dei time lord, per noi un anno è una, diciamo, una cosa opinabile, come quando vogliamo noi è finito l'anno. Allora, da un po' di statistiche che abbiamo raccolto tramite i nostri gestori di file, possiamo dire che le ultime 11 puntate abbiamo avuto in totale circa un 4.000 download totali e una media di circa 300 download a puntata. E andando un po' a vedere nei dettagli, abbiamo scoperto che si conferma la teoria della coda lunga, cioè più gli episodi sono stati in rete, più sono stati scaricati. Quindi fondamentalmente chi ci segue comincia ad ascoltarci dall'inizio generalmente, poi piano piano si rifà di quello che si era perso. Noi abbiamo tutti i nostri dati sul nostro gestore di file, che è archive.org, che è praticamente la memoria di internet, che è una branca della come si chiama? Della Internet Library della libreria americana, fondamentalmente, che sta a Washington. È una branca che si occupa solo di fare archiviazione di roba di internet, cioè di prendere l'Internet Archive. E i plot che genereremo ai dati li potete vedere anche, dare un'occhiata al codice sul nostro repository di GitHub, dove lì ho messo un po' di roba che ho usato per raccogliere questi dati. Ok, questo è in generale sulle puntate, sulla cassa, come diceva Francesco, però sui denari abbiamo incassato circa un 170 euro tramite Amazon, tramite referral, quindi non abbiamo preso soldi da nessuno se non che da Amazon. Quindi di questi soldi ne abbiamo finora spesi un po' per l'hardware, abbiamo comprato un microfono per Massimiliano per migliorare l'audio, abbiamo comprato un po' di software, cioè il fantastico Pod Cleaner, e per la fantastica somma di circa 9 euro abbiamo comprato 3 licenze dal nostro amicone Alex, che ringraziamo e consigliamo a tutti di utilizzare questo podcast, questo programma, se fate un podcast nella vita vi risparmierà un sacco di ore di vita e di lavoro. E come ultimo, per ringraziare i nostri gestori di file, quindi archive.org, abbiamo donato $25, in quanto è completamente free e da loro non abbiamo mai avuto un problema, e anche quando ci sono stati alcuni problemi per via del numero di download eccetera sono stati molto molto responsivi, anche se sono completamente gratis e gestiscono non so quanti tera di dati al giorno, una cosa assurda per una fondazione fondamentalmente no profit. E come ultimo, una donazione di $25 per il software Audacity, che noi utilizziamo adesso standard per registrare il nostro audio. Quindi noi abbiamo abbandonato il GarageBand che utilizzavamo all'inizio e siamo passati a Audacity per varie questioni. Consigliamo anche questo per la comodità e per la modularità che offre. Poi ovviamente se avete più soldi, non avete voglia di sbattere, vi sono molti software più professionali, ma non chiedete a noi perché noi utilizziamo questa roba a basso costo fondamentalmente. Bene, come ultima cosa che volevamo ricordarvi, questo sono i nostri sommari di quest'anno. Un'idea che avevamo di voler fare durante l'anno prossimo è quella di fare un live. Potrebbe essere un'idea, molto probabilmente lo faremo tramite, penso, YouTube, no Francesco? Sì, che è la cosa più comoda. La parte live di Hangout, esatto. Quindi voi vi collegherete su YouTube. Okay. Non avrete l'onore di vederci in faccia perché noi registriamo sempre con il pigiama, di conseguenza sarà solo audio. Perfetto, ora metterò il pigiama di Geek Cookies, voi pensatemi così. Comunque, per avere un'idea sugli orari, sui giorni, noi siamo un po' variabili, adesso stiamo un po' riconfigurando quando registriamo, probabilmente faremo un po' di sondaggi per vedere se prima che cosa c'è gente interessata, se nessuno vuole sentire il nostro live è inutile, e se c'è qualcuno interessato faremo un piccolo sondaggio per capire più o meno i giorni, gli orari più consoni per avere più possibile di voi. Sarebbe una bella esperienza per avere anche un feedback al volo su cosa ne pensate. Ottimo, quindi direi che più o meno questi erano i punti di cappello della puntata e possiamo passare a cose più gustose, o giusto, sbaglio? Allora oggi torna dopo un po' di mesi la ricetta di Valentina, ci propone dei biscotti, delle sfoglie al burro, praticamente è burro cotto al forno, buonissime. Oh. E quindi bando alle ciance e passiamo la voce a Valentina, a fra un po'. Eccomi tornata con le mie ricette ed ecco tornato i biscotti, quelli veri. Per questo Natale ho scelto dei biscotti senza risparmio di calorie, si chiamano Kiffles e Kiffles, non lo so, e sono sfogliatine di origine ungherese, farcite con la marmellata, impastate con burro e formaggio cremoso. È difficile descrivere quanto siano irresistibili. Per circa 35 sfogliatine ti servono 200 g di formaggio cremoso, tipo Philadelphia per intenderci, 200 g di burro a temperatura ambiente, 350 g di farina e zucchero a velo quanto basta. Per farcire marmellata di pesche o di albicocche. Per prepararli procedi in questo modo. Lavora il burro insieme al formaggio fino ad ottenere una crema omogenea. Aggiungi la farina un po' per volta e impasta. Questo tipo di pasta è appiccicosa, si attacca alle mani, don't panic, è normale. Riporta man mano la pasta che si appiccica alle dita nella scodella. Lavorala il più rapidamente possibile senza farla scaldare. Se ti sembra troppo appiccicosa, mettila un quarto d'ora in frigorifero e poi riprendila. Compattala, spolvera il panetto con un po' di zucchero a velo, avvolgilo con la pellicola per alimenti e falla riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Per preparare i biscotti, spolvera il piano di lavoro con abbondante zucchero a velo, la pasta è ancora appiccicosa. Quindi riprendi l'impasto, dividilo in 4 parti e tieni le parti rimanenti sempre in frigorifero. Stendi l'impasto in una forma il più possibile rettangolare, a uno spessore di circa 2 mm. Da questa sfoglia ricava dei quadrati di circa 5 cm di lato. Al centro di ogni quadrato metti mezzo cucchiaino di marmellata e distribuiscilo lungo una delle diagonali, ma non ti avvicinare troppo ai bordi. Ripiega gli angoli lungo la diagonale disegnata con la marmellata e sigillali, cercando di portare quello più esterno quasi sotto la sfogliatina. Questo impasto in cottura si sfoglia e si gonfia, quindi se non lo richiudi con cura le sfogliatine si apriranno miseramente. True story. Se vuoi fare le cose più semplici, metti la marmellata al centro della sfogliatina e non chiuderla affatto. In forno a 180 gradi, in forno statico preriscaldato, per circa 20 minuti o fino a leggera doratura. Fai raffreddare, spolvera di zucchero a velo e servi. Si conservano in un contenitore ermetico a temperatura ambiente per qualche giorno. Noi ci risentiamo il prossimo anno, che tanto la prova costume è lontana. Io vi auguro buone feste e buon Natale. Ciao! Ed eccoci qua, bentornati, vi siete fatti venire l'acquolina in bocca per la ricetta di Valentina. Se volete la potete trovare sul suo blog Brodo di Coccole, la potete rifare, è effettivamente molto molto semplice. Vi consiglio di assaggiare questi biscotti sia appena sfornati senza bruciarvi troppo, sia freddi, sono buonissimi sia in un modo che nell'altro, perché io prima di ammettere i biscotti di Valentina al podcast li testo sempre. Fai l'alfa testing e beta testing. Esatto, esatto. Allora, direi a questo punto che possiamo passare all'intervista che Mario ha fatto con Fabrizio. Un'intervista abbastanza lunga, molto interessante tutta. Godetevela e ci risentiamo tra un po'. A dopo. Allora, buonasera a tutti, eccoci qui come promesso con una nuova entry nel nostro podcast. Abbiamo stasera, oggi pomeriggio, dipende quanto ascoltate, qui come ospite l'ottimo Fabrizio Venerandi, che ha consentito di essere qui con noi. Buonasera Fabrizio. Buonasera. Senti, visto che penso che molti dei nostri utenti che bazzicano più nel mondo della tecnologia abbiano sentito parlare di te o della tua casa editrice, ci puoi fare una piccola introduzione di chi sei e di cosa fai? Allora, in questo caso faccio tante cose, forse troppe. In questo caso faccio l'editore dal 2010 insieme a Maria Cecilia a Verame. Abbiamo iniziato questa avventura nel maggio del 2010 di aprire una casa editrice che non facesse libri di carta ma facesse principalmente ebook. E nel 2010 era un po' un azzardo perché non c'erano gli store, non c'erano molti book reader in giro, non c'era Kindle in Italia, quindi è stata un'esperienza da un certo punto di vista d'avanguardia. E la seconda cosa che ci ha caratterizzato, almeno inizialmente, è stata quella di pensare dei prodotti digitali che fossero diversi dal libro, quindi pensare in che maniera l'ebook poteva essere un prodotto autonomo e diverso, che avesse delle caratteristiche proprie rispetto invece a quelle del libro. E dal 2010 ad oggi abbiamo fatto parecchie cose strane, alcune sono andate bene, alcune sono andate male, tutte comunque caratterizzate da una certa sperimentazione sia del mezzo sia degli strumenti di distribuzione o di creazione dei testi. Infatti volevo, mentre dicevi, mi è venuto in mente che voi avete pubblicato anche fumetti, che io comunque sono un cliente, tu lo sai. E, sì. Prego. Sì, abbiamo, diciamo che le collane che ci hanno caratterizzato in questi anni sono state inizialmente quelle di narrativa interattiva, quindi esatto, di narrazioni che cambiano a seconda dei desideri di colui che legge. E un'altra collana che ci ha caratterizzato è stata quella invece degli abbonamenti agli scrittori, dove si poteva abbonarsi a uno scrittore e ricevere nel corso dell'anno materiali che nel momento dell'abbonamento non erano ancora stati scritti, quindi materiali inediti, bozze, romanzi in divenire. Anche questo è stato abbastanza particolare. Abbiamo poi fatto dei testi in fumetto e ultimamente sempre con fumetti abbiamo fatto dei testi in audio e testo, dove il testo è sincronizzato con dell'audio, quindi sono dei libri multimediali, in questo caso delle sbobinature di autointerviste, dove l'ebook diventa in un certo senso sia un audiolibro che invece un testo da leggere. E accanto a questo abbiamo avuto anche parecchie cose legate invece alla periodica. Abbiamo fatto forse tra le prime riviste in ebook come Alfabeta 2, Most, LG, Argomenti e H Parlante, quindi delle riviste che nascono già per essere lette come ebook, e alcune anche con la versione dedicata in questo caso. E non ultimo, tutta la collana invece è legata all'informazione, e uno degli ultimi testi anche. Attualità è anche legata al mondo dell'informatica. Uno degli ultimi testi, e tra l'altro uno dei più fortunati di questa collana, è stato proprio quello legato al Deep Web di Carol Freidiani. Ah, ok. Senti, mi è solleticato l'interesse con il libro multimediale. Ma dato che in questo podcast noi parliamo anche di roba molto tecnica, volendo puoi anche scendere nel dettaglio, perché quello è sempre stato uno dei problemi. Voi usate EPUB come formato generalmente, no? Esattamente. E come siete riusciti a inserire? Hai usato EPUB 3, immagino, per questi multimediali. Sì. E la domanda è sempre quella: su quali, cioè, non funzionava su tutti gli hardware, immagino, un testo multimediale? Allora, in questo caso noi abbiamo deciso, è stato uno dei nostri primi EPUB 3, è uscito quest'anno, e abbiamo deciso di farlo perché l'EPUB 3 introduce una tecnologia chiamata Media Overlay. Questa tecnologia è una tecnologia basata sostanzialmente su un XML, il quale sincronizza l'audio con il testo. Io quindi, nel momento in cui sto marcando il mio testo in XML, posso dare delle informazioni attraverso un secondo XML alle parti audio che sono inserite nell'ebook. Questo è molto interessante non solo per fare degli audiolibri, ma anche per creare dei testi in cui ci sia una frizione tra il testo che viene letto con gli occhi e il testo che viene ascoltato con le orecchie. Come questo è il caso, perché il testo di cui sto parlando, che si chiama Satira al telefono di Gubitosa, è un testo in cui Carlo Gubitosa si è autointercettato mentre telefonava alla Lega Nord piuttosto che al PD, facendo delle domande molto scomode. E la cosa interessante dal punto di vista tecnico è che le sbobinature che lui poi ha fatto per Il male di Vincino erano diverse rispetto al registrato, per esigenze anche di stampa. E quindi questo testo è un testo in cui una persona legge le sbobinature fatte da Gubitosa, ma contemporaneamente ascolta gli originali. In questo caso il media overlay non è una messa in bella del testo, ma è una possibilità di leggere il testo e di ascoltare gli originali audio, in molti casi con inflessioni di voce, con tutto ciò che non è possibile trascrivere su un testo letto con gli occhi, e che in molti casi sono diverse dal testo che Carlo ha sbobinato, perché magari ci sono degli incisi o delle spiegazioni molto lunghe, e quindi si ha un ebook estremamente particolare. Non solo in questo caso, nel senso, in questo caso risulta un testo molto divertente da leggere, ma anche molto interessante per capire la psicologia che sta dietro a queste persone. Ma in generale il fatto di pensare che un ebook abbia un media overlay in cui non ci sia una sincronizzazione completa a livello di senso tra testo e audio può dare vita a testi di narrativa, di poesia, secondo me è molto interessante. Sì. Ma è fantastico. A parte, la prima cosa che mi viene in mente è che abbiamo finalmente una cosa standard, senza dover appoggiarsi a altre mille robe tipo Apple, eccetera, con i formati strani loro. Ma mi dà in mente come fosse il contrario di sottotitoli per i video. Cioè, tu hai un testo che ha dei video audio titoli in questo caso, quindi qualcosa che aggiunge. È carino, è veramente interessante. È vero. È vero, è l'opposto. Il supporto dell'EPUB 3 è un supporto che varia, cambia di mese in mese, nel senso che l'EPUB 3 non ha avuto una grande fortuna perché come standard ha parecchie pecche. E, detto questo, è anche l'unico standard con cui si possa effettivamente pensare di lavorare con queste modalità, e quindi comunque il supporto, pur non essendo meraviglioso, c'è, e nel momento in cui ci siamo resi conto che c'è, abbiamo cercato di fare questi primi EPUB 3 per assaggiare anche la qualità del discorso che è possibile pubblicare, diciamo così. Ottimo, ma quindi, dato che il problema dell'EPUB 3, a parte la, diciamo, quali standard vengono aggiunti come standard o no, è anche il problema del quali hardware supportano quali pezzi dello standard, quello è anche un problema che si aveva anche prima con l'EPUB 2. Voi in genere come, certo, fate? Avete più grosso, cioè un grosso parco hardware o diversi hardware che supportate, oppure lo rilasciate così com'è senza testarlo su qualche hardware particolare? Cioè, essendo uno standard, quindi... No, noi dunque, nel momento che noi creiamo un ebook, inizialmente noi partiamo dalla costruzione di un testo digitale, a prescindere dalle pub, a prescindere dal Mobi Pocket, a prescindere da tutto. Quindi noi lavoriamo generalmente su un grosso XML o su più XML, e una volta che il testo digitale ci sembra pronto, creiamo i pacchetti, quindi creiamo gli EPUB, creiamo dagli EPUB i Mobi Pocket per Kindle, creiamo anche dei PDF particolari, dei PDF non pensati per la stampa ma pensati per la lettura video, quindi con una dimensione di pagina 7-8 pollici, sì, in modo che possano essere letti su tablet, esatto. Okay. E una volta fatto questo, noi testiamo. L'EPUB, perché io possa dire di aver finito un EPUB, deve funzionare almeno su Adobe Digital Edition o Adobe Digital Mobile e almeno su iBooks, perché sono i due programmi più utilizzati per la lettura di ebook. Io so che se funzionano su Adobe Digital Edition e contemporaneamente funziona anche su iBooks, non ho neanche poi grossi problemi nel mondo Android, perché tendenzialmente programmi come GitDen Reader o altri hanno un supporto relativamente simile a questi due. E quindi no, una fase sostanziale della creazione dell'ebook è il testing, cioè essere sicuri che certe cose funzionino. Detto questo, che è importante dire, ci sono alcune cose che facciamo, che le facciamo seguendo lo standard e che sappiamo che non funzionano dappertutto. E in alcuni casi noi lo facciamo sapendolo, considerando il fatto, indichiamo quali programmi utilizzare perché tutto ciò che noi abbiamo fatto funzioni, e aspettandoci che gli altri prima o poi lo mettano a posto. Questo perché ci è già capitato in passato di fare degli EPUB 2 in cui alcune cose che dovevano funzionare non funzionavano. Noi abbiamo tenuto duro perché comunque dovevano funzionare, ci è capitato che senza che noi facessimo nulla, dopo 5-6 mesi, dopo un anno, improvvisamente iniziassero a funzionare perché iBooks di Apple finalmente si rendeva conto che c'era un baco, lo metteva a posto, e quindi il nostro ebook, come era giusto che fosse, iniziava a funzionare. Evidentemente lo facciamo quando la cosa che noi proponiamo non sia troppo impattante. Abbiamo fatto delle copertine interattive, abbiamo fatto alcune cover vettoriali in cui i vari elementi della cover sono in realtà dei link, quindi io tocco il titolo del libro, inizio a leggere il libro, tocco il nome dell'autore, vado alla biografia, tocco la scritta testo in italiano e in inglese, e a seconda di dove tocco finisco nella parte italiano o nella parte inglese. E queste copertine funzionano con tutti, quasi tutti, però ci sembra comunque giusto fare questo tipo di sperimentazione anche per vedere in che maniera lo stesso concetto di copertina può cambiare quando diventa digitale. E così come questo testo, ad esempio, di satira, noi sappiamo che al momento iBooks di Apple non supporta il media overlay se non con testi fixed, cioè con testi che riproducono delle pagine fisse, senza possibilità di reflow, mentre il nostro testo è un testo media overlay reflow, perché pensiamo che reflow sia molto meglio. In questo caso noi lo sappiamo, lo diciamo a coloro che acquistano l'ebook, consigliamo altri lettori di ebook per iPad che non siano iBooks, e proponiamo dei fallback, nel senso che all'interno dello stesso capitolo proponiamo anche un ascolto non media overlay del file audio, ma in questo caso, diciamo così, non è colpa nostra, è colpa di Apple, certo, che rallenta un certo tipo di sviluppo delle specifiche. Ma certo, questo rientra sempre nella storia antica del cos'è uno standard e quanti standard ci sono, cioè, esatto, ognuno vuole sempre tirare acqua al suo mulino e recintarsi e far stare le persone lì, cioè avere lo standard più aperto possibile e esserne fedeli vuol dire che tutti gli utenti possono andare dove vogliono alla fine, esatto, cioè i vostri prodotti uno li potrebbe leggere su, li può leggere su qualsiasi cosa che supporta lo standard ufficiale, cioè ebook 3. Comunque, per chi sta ascoltando e non sa di che stiamo parlando come formato, voglio ricordare che almeno l'EPUB 2 è fondamentalmente una cartella piena di HTML, immagini, fondamentalmente una pagina web con delle extra metadati compressa. L'EPUB 3 come struttura è simile, se non ricordo male. Sì, è abbastanza simile. E mentre l'EPUB 2 ha l'XHTML 1.1 come standard, l'EPUB 3 usa un XHTML 5, quindi un HTML 5 però con una struttura XML. Okay. Possiamo usare qualcosa dei CSS 3, non tutto, se no ci viziano, sì, troppo, abbiamo un subset, e possiamo usare qualcosa di JavaScript, che per me è un grosso passaggio, perché finalmente, e cioè sarebbe un passaggio molto grande, però il supporto ancora è molto molto molto timido. Pensare di fare un ebook con HTML5, CSS2 con un po' di CSS3, JavaScript, significa che puoi fare tanta roba, e puoi fare a livello di interazione, a livello di proprio cambiamento della percezione di lettura del testo, di manipolazione dei contenuti, di interazione dei contenuti, e sarebbe un passaggio molto grande. In realtà il passaggio è più piccolo di quello che potrebbe essere, per diversi motivi tecnici che, se vuoi, poi ti racconto. E secondo me l'EPUB 3 sta un po' vivendo questo momento di potrei fare 1000, ma per adesso faccio 10, e anche lì gli investimenti in termini di sviluppo sono tutto sommato non particolarmente significativi, se non ad esempio negli EPUB 3 fixed destinati, che ne so, all'infanzia, dove è più semplice, diciamo così, fare un EPUB 3 fixed con elementi di multimedialità è molto molto facile, okay, rispetto invece a ripensare la lettura interattiva. Quindi siamo, per l'EPUB 3, secondo me, vivendo ancora un momento di stallo che potrà essere più o meno lungo. Ok, quindi giusto per far capire agli ascoltatori, le serie di cui ti riferivi tu prima, delle vostre, quelle con le avventure, non sapevo come definirle, con le avventure interattive, diciamo, mm-hmm, fino adesso avete fatto in EPUB 2, e infatti ho letto alcune delle tue presentazioni in cui spieghi come hai fatto, e non essendoci variabili all'interno, tu hai scritto, non lo so, 10 volte di più della storia media che un utente legge, e tu hai tenuto in conto cioè tutte le alternative esistono nel tuo libro. Sì, e, sì. Esatto, è stata una cosa abbastanza particolare. Interessante. Sì. Beh, tra le altre cose, Enrico Colombini, che è stato, esatto, lo scrittore del primo testo, che ha anche scritto un software per fare tutto questo, ha anche scritto poi un ebook che abbiamo pubblicato, che in cui spiega questa tecnologia, che è una, in realtà è un escamotage, però è un escamotage che funziona. Non potendo usare delle variabili di stato, moltiplichiamo gli stati. Esatto. Quindi si crea un iper ebook in cui ci sono scritti tutte le possibilità testuali a seconda di quello che il lettore fa. Bello, una biblioteca di Babele in mano, cioè è tutti gli universi possibili, quasi tutti quelli che lo scrittore pensa. Tra l'altro, giusto per dirti, io sono ancora bloccato nel tuo labirinto in David Crane, cioè, non sono più riuscito a uscire. Un giorno ricomincerò da capo. Mi spiace. Però devo dire, ne ho giocati un paio, cioè, non so, tu come dici, come potresti dire, uno legge o gioca questi libri secondo te? Allora, se ne è parlato qualche giorno fa, sono andato a un bar camp in cui si parlava proprio di questo. Secondo me dipende dal testo. Alcuni testi che abbiamo pubblicato noi, come Locusta Temporis, secondo me sono dei giochi, sì, costruiti all'interno di una storia. Altri testi che abbiamo pubblicato, come questo, come quello di Antonio Koch, piuttosto quello di Mazzetti, sono invece dei libri, sono delle opere di letteratura che utilizzano diciamo così, il gioco o l'ipertestualità per finalità chiaramente narrative. Quindi c'è anche una, all'interno della la cosiddetta hypertext fiction, lo strumento è l'hypertext fiction, ma le finalità possono essere decisamente diverse, quindi avere degli ebook game e avere invece dei testi di narrativa interattiva, usando la stessa strumentazione ma con finalità proprio espressive molto diverse. Ok, quindi dipende dal libro in particolare, un po' come i film, nel senso se più l'accento è sull'azione, sulla storia o la struttura stessa di come è formato il libro. Di quello esattamente. Fa. Okay. Ad esempio, Enrico Colombini, che è uno scrittore di avventure testuali, ha scritto la prima avventura testuale in lingua italiana. Su Apple 2, se non sbaglio, no? Su Apple 2, esatto, avventura nel castello. E il suo ebook, Locusta Temporis, lo ha pensato in maniera molto simile all'avventura testuale, quindi abbiamo dei blocchi di testo molto brevi, una forte interattività, non si gira mai pagina, ma in ogni blocco di testo c'è almeno un link, quindi è tutto basato su una continua navigazione ipertestuale e a differenza forse di un libro game in cui tu prendi delle scelte e arrivi poi da un certo punto del libro, in questo caso invece tu devi capire cosa devi fare, altrimenti finisci in loop, come avviene in un'avventura testuale. Cioè, è un libro in cui se non scopri come uscire da una determinata situazione, tu resti in quella situazione finché non esci fuori. Tipo il labirinto, diciamo. Tipo il labirinto, una. Che è nel mio libro l'elemento più simile. È effettivamente il labirinto del mio ebook è chiaramente un omaggio all'avventura testuale. Okay. Invece, tutt'altro campo, quello di Mauro Mazzetti in Cuore alla Coq, abbiamo un testo, mi pare di, diciamo così, 10 pagine, quindi estremamente breve, il quale ha però delle note e dei link che permettono di navigare all'interno dei romanzi dei singoli personaggi contenuti nel primo capitolo, e quindi dalle 10 pagine si accede poi ad altre 480 pagine, le quali a loro volta sono costruite a scatole cinesi con note, con link ai personaggi dei personaggi e così via, fino ad avere non più un gioco, quindi siamo fuori dal campo del ebook game, siamo proprio nel pieno campo dell'hypertext fiction, dove la persona che legge si perde in una narrazione una sorta di Wikipedia allucinato basato all'interno di un romanzo, dove trovi la sinossi dell'opera, le schede degli autori, le fotografie dei luoghi in cui si svolge il romanzo, le storie singole e così via, fino ad un vero e proprio perdersi infinito, perché poi ci sono anche dei loop che il lettore può e ci sono anche le secret, no? C'è un punto in cui se tu clicchi in un punto particolare del testo finisci in una secret che è un secondo romanzo nascosto all'interno del primo. Questo per dirti come la semplice struttura ipertestuale può dare vita a opere sia di narrazione sia di gioco decisamente complesse. La cosa che mi piace di tutto questo discorso è che non bisogna per forza andare. L'esempio che ho sempre in testa è quello del formato iBook che ha fatto la Apple per fare cose secondo loro molto belle. Cioè non c'è bisogno di, diciamo, estendere formati e far diventare non standard. Con la struttura che si ha si può creare già un sacco di roba molto molto più interessante rispetto a quello che già esiste, quindi senza dover inserire per forza video in maniera non standard o robe strane. Sì, io credo che molta dell'interattività multimediale che si vede in rete sia un po' spinta dalla necessità di far vedere quanto è bello l'hardware. Nel nostro caso il nostro primo discorso era capire in che maniera poter fare un discorso digitale autonomo rispetto al prodotto cartaceo e vedere quali sono le peculiarità, perché un discorso di narrazione o di informazione in digitale possa vivere autonomamente. Poi questo non vuol dire non usare la multimedialità, però pensare perché sto usando la multimedialità, perché sto mettendo qua un video, in che maniera questo video mi interagisce col testo che è intorno, in che maniera cioè quanto l'inserimento di un video cambia la modalità di lettura di colui che legge, che si trova ad avere due modi di tempo di percezione delle informazioni diverse. Il video ti obbliga a stare fermo ad ascoltare il video, altrimenti non ascolti più il video. Il testo puoi scegliere tu se leggerlo, se saltarlo. Sono due modalità diverse, anche i luoghi in cui tu puoi leggere. Io posso leggere un testo di carta in piedi sull'autobus, posso leggere un ebook in piedi nella metropolitana. Se un video, già devo avere un luogo un po' diverso, se il video è in rete devo avere una connessione, devo essere in un ambiente che mi permetta l'ascolto, devo avere delle cuffie e così via. Quindi ogni modalità richiede poi delle necessità di ambiente, di ascolto, di percezioni diverse. Vanno calibrate, vanno pensate, anche per un ebook poi è relativamente semplice. Ottimo, ok, allora vorrei andare avanti un po' con le domande perché ne abbiamo un sacco e spero di riuscire a fartene un paio in più. Vai. Allora, mi è fatto venire anche un'altra cosa in mente, una cosa che ti volevo chiedere in generale su cos'è l'editoria digitale, però ti faccio una domanda specifica. Posto che l'editoria più o meno si sa come funziona, anche noi non ho detto i lavori, quello mi chiedevo, una cosa che io ho letto spesso in rete è il lamentarsi che i prodotti di editoria digitale non sono ben collaudati come fate voi, cioè molte case, anche più grandi e blasonate, spesso prendono un prodotto che già hanno e lo lanciano nel mercato. Quindi c'è molta gente che si chiede, ma è davvero, come dire, utile avere un'editoria digitale? E anche la domanda collegata è quella che probabilmente ti hanno anche fatto, tutto questo discorso ultimamente, se l'editoria digitale è in calo, è in crescita in Italia e non, eccetera. Quindi la prima domanda è, per un editore digitale, secondo te quanto è importante controllare la qualità del suo prodotto? Prima cosa. Allora, innanzitutto diciamo che le critiche che si sentono su una cattiva qualità digitale sono dovute, secondo me, a due aspetti diversi. Il primo aspetto è legato al fatto che fino al 2010-2011 le case editrici tradizionali non avevano mai riflettuto sulla conservazione digitale dei propri testi, e quindi quando è arrivato questo fenomeno dell'ebook, in cui tutti poi sono voluti salire con maggiore o minore lentezza, si sono trovati a non avere delle copie digitali, non dico in XML, ma anche delle copie digitali in Express o in InDesign dei testi, che avrebbero dovuto convertire in maniera massiva perché diventassero ebook. E quindi c'è stata una corsa frenetica alla digitalizzazione di testi che in moltissimi casi erano cartacei. I vagonate di libri chiusi in container spediti in paesi molto lontani dall'Italia perché qualcuno facesse un service di conversione massiva di migliaia e migliaia di testi. Okay, si può intuire come questo non aiuti la qualità poi del prodotto finale. Esatto. E quindi in questi anni abbiamo avuto dei prodotti, anche da case editrici molto grandi, dei prodotti digitali mediocri, ricolmi di errori, di cattivo OCR, cattiva formattazione, CSS pesanti, obsoleti, povero beta testing e così via, tanti di questi difetti. Ok, quindi scusami. Prego. No, volevo dire, a questo punto non so se è vero, però da un certo punto di vista è più facile fidarsi quindi di case editrici piccole, diciamo, come voi, o anche dei singoli scrittori che mettono il loro prodotto sul mercato perché hanno molto più a cuore la qualità del loro prodotto, quindi di avere un rapporto, diciamo, di fiducia con i propri utenti, mentre le case di distribuzione o editrici molto più grandi questa cosa è un po' più diradata, diciamo. Io credo che la situazione sta leggermente migliorando anche per le grandi, perché poi questo primo momento di grande massificazione sta venendo meno, e sicuramente le piccole case editrici indie che hanno cominciato a fare ebook nel 2010-2011 facevano sicuramente ebook migliori rispetto a quelle delle sorelle maggiori, diciamo così. E oggi ho visto anche cose molto belle fatte da case editrici più grosse, ad esempio ultimamente ho visto alcuni bei testi della UTET, alcune cose interessanti, segno che piano piano si sta avendo una consapevolezza maggiore della necessità di fare dei buoni prodotti digitali se si vuole venderli. Anche un secondo aspetto che sta facilitando questo passaggio è nel momento in cui io ho già digitalizzato parte del mio patrimonio storico, le novità probabilmente ce l'ho già in InDesign, ce l'ho già comunque in un formato che non è quello di CAD, quindi sono anche facilitato in un'esportazione in EPUB. Ok, diciamo una volta che si ha la coscienza che questo mercato esiste, perché quello è il grosso problema dei distributori grossi, immagino. Sì. Metti sì, su... poi... sì. No, poi c'è anche da dire che non c'è da parte degli editori più grossi un grande entusiasmo nell'entrare nel digitale. Quello che noi abbiamo avvertito da piccoli editori è stato un timore, anzi, di bruciare i titoli cartacei facendo uscire quelli digitali. E quindi l'impressione che noi abbiamo avuto, perché noi essendo soltanto digitali non diciamo vediamo la cosa un po' dall'esterno, l'impressione che abbiamo avuto è che ci sia stato un vogliamo esserci, vogliamo anche noi fare ebook, ma con una cautela tale da renderli prodotti poco appetibili. Ancora oggi molti dei prezzi che noi vediamo in giro di ebook fatti dagli editori più grossi ci appaiono curiosi, ci sono delle scelte abbastanza curiose nel momento in cui invece ci sarà bisogno di un aumento dello sviluppo. Infatti questo porta a un'altra domanda: ma come mai succedono queste politiche di prezzi? Quindi sono meramente politiche, cioè appunto cercare di qualche modo di proteggersi da una specie di fantoccio mostro che è il digitale, oppure sono davvero... Io credo che quando intervisterete qualcuno di loro ve lo dirò. Okay. No, l'idea tua ovviamente questo. No, l'idea mia è che sicuramente ci sia un atteggiamento protezionistico nei confronti del prodotto libro che oggi viene visto come comunque prodotto principale dell'editoria. E quindi oggi si sta parlandomi del 5% del mercato digitale, quindi è ancora un mercato piccolo e lo si vuole tenere comunque, secondo me, controllato. Ok, quindi questo mi porta ad altre due domande. Quindi quando tu parli di questo sentimento che si ha del poter perdere la parte cartacea, quindi la prima domanda è come vedi il mercato digitale? Tu, parliamo dell'Italia solamente, quindi questa diatriba se il mercato digitale è in crescita, è in diminuzione, e se questo porterà davvero a, diciamo, al perdere piano piano il libro di carta, oppure si evolverà in qualche altra forma? Ma il mercato in Italia, secondo me, non ha i numeri così piccoli che vengono detti in giro. Molte delle indagini di mercato che vengono fatte, ad esempio, per scelta, non tengono conto o tengono conto in maniera molto penalizzante Amazon. Tutti i testi di Amazon senza ISBN, quindi quelli del cosiddetto KDP, il sistema di distribuzione proprio di Amazon, io non credo che siano conteggiati nelle varie percentuali che si leggono in rete. E vedendo io da editore digitale la percentuale di vendite che ho su Amazon rispetto a tutti gli altri store, Amazon è il luogo dove noi vendiamo di più. Quindi il fatto che le percentuali di Amazon siano decisamente sottostimate, ma decisamente, mi fa pensare che in generale la percentuale che si legge in giro del 4-5% sia molto penalizzata. Io credo che la vendita dell'ebook sia decisamente più ampia rispetto a quella percentuale. E, la seconda domanda che mi hai fatto non me la ricordo più. Era sul libro di carta, cioè secondo te questa diatriba, cioè se esiste questa, diciamo, corsa tra i due formati, tra i due oggetti diversi fondamentalmente, che secondo te se c'è, o se c'è, che fine farà il libro di carta? Dunque, secondo me non c'è, e il fatto che noi, che siamo stati tra i primi editori digitali a nascere solo digitali con una certa fierezza, oggi abbiamo direi una o due riviste che escono ogni trimestre, ogni quadrimestre in quadricromia, quindi con stampa, significa che il mercato cartaceo e il mercato digitale sono due mercati che convivranno ancora a lungo assieme, sia perché alcune cose, una parte di pubblico al digitale non ci vuole passare, perché esiste un solido pubblico di persone che leggono carta e che non hanno necessità di passare al digitale. E queste persone leggono, e queste persone leggono magari dei contenuti che noi stiamo facendo oggi solo in digitale. Perché toglierci la possibilità di raggiungere anche loro? Quando ti dicevo prima, il nostro discorso è sempre a monte dei vari pacchetti. Noi lavoriamo in XML e sui nostri testi. Alcune cose dei nostri testi escono in EPUB, altre escono soltanto in EPUB 3. Altre escono soltanto in quadricromia, altre escono soltanto per Mobi, per Kindle. Cioè il nostro discorso è: noi abbiamo dei contenuti, questi contenuti possono finire anche sul web, possono finire dentro delle web app, possono finire anche su carta, gli stessi contenuti, alcuni sì, alcuni no, alcuni diciamo sono precipui della carta, altri soltanto digitale. Ma il nostro discorso è che l'editore deve essere a monte di tutto questo, deve pensare in digitale, dove il pensare il digitale significa che anche la carta diventa uno strumento del digitale, diventa uno strumento con cui io metto fisso con una tecnologia cose che per me nascono in digitale. E per questo io non credo che la carta, che il libro di carta scomparirà, no? Sicuramente alcune zone del libro di carta stanno già scomparendo. Pensate all'editoria cartacea delle riviste. Esatto. Molte riviste non esistono più, non sono scomparse. Le peggiori hanno tentato il PDF per un po' di tempo, poi sono riscomparse. Altre, secondo me, stanno cercando di ripensare tutto il loro discorso in maniera più ampia, spostandosi nel web, costruendo delle riviste magari in EPUB per la vendita e così via. E spostarsi nel digitale non significa fare il PDF della rivista di carta che facevi fino al mese prima. E secondo me molte riviste che magari non possono oggi essere sostenibili per la carta, anche per i problemi di distribuzione che noi ben conosciamo, possono trovare una nuova vita invece con una costruzione interamente digitale, che poi può voler dire anche continua a fare delle copie cartacee ad hoc, non le distribuisco più nelle edicole perché magari non riesco a reggere tutto il fenomeno dei resi, ma io faccio dei prodotti digitali, leggibili in digitale e ordinabili e stampabili su misura per chi invece lo vuole la copia cartacea. Ok, cioè la stampa on demand praticamente. Un on demand tipo, o comunque sistemi di abbonamento, okay, ad esempio. Quindi ottimo, mi fa venire in mente una vignetta che ho visto ultimamente tempo fa su questa roba del digitale e della carta. Alla fine la stampa sulla carta è una tecnologia che noi abbiamo adottato qualche centinaia di anni fa, e come il digitale è un'altra tecnologia, quindi ogni media è fatto diciamo meglio per ogni contenuto. Quindi come dicevi tu, io come editore posso scoprire che alcuni contenuti rendono meglio solo sul web, come le riviste oppure tutte le robe che hanno bisogno di essere aggiornate velocemente, mentre la narrativa per esempio per un formato da libro, mo che sia cartaceo o sia EPUB o anche statico, va benissimo, perché non ha bisogno di quella velocità che le riviste per esempio devono per forza avere per rimanere a galla. Sì. Sì, ma poi anche se tu pensi alcuni prodotti usciti ultimamente, uno dei prodotti che ho letto ultimamente che ho trovato molto interessante è un libro di carta che si chiama Esse, la nave di Teseo. È un romanzo uscito un annetto fa più o meno, adesso, sì, un annetto fa, poco meno. E questo è un libro di carta in cui c'è, questo libro di carta è un romanzo vero e proprio. E il romanzo è, nel momento che tu lo compri, è già vecchio, nel senso che è ingiallito, la carta è vecchia, okay, ed è annotato, è pieno di annotazioni fatte a penna di due persone. E in mezzo a questo libro ci sono cartoline, appunti, fogli di giornale, cioè c'è tutta una metanarrativa non più trattata all'interno del libro, ma trattata come oggetti esterni. E alcune cose poi hanno anche poi uno sviluppo in rete. Ecco, un testo di questo tipo è estremamente interessante perché da un lato questo sistema degli appunti scritti a mano ricorda tantissimo le chat, perché le persone che fanno questi appunti sono tendenzialmente due e quindi si parlano l'un l'altra utilizzando questi appunti fatti a mano a bordo pagina. Quindi si ha un sistema di lettura multiplo: io leggo il testo, ma leggo anche gli appunti, ma leggo anche le discussioni che avvengono tra questi due personaggi attraverso questi appunti, e contemporaneamente ho una lettura ipertestuale, perché si parla di un oggetto e quell'oggetto è in mezzo al libro, quindi vado a cercarmi l'oggetto e guardo cosa c'è scritto sopra questo oggetto. E contemporaneamente questo sistema, che è estremamente, estremamente digitale, diciamo così, dal punto di vista sì. della concezione, non funziona in digitale, nel senso che è un libro che funziona soltanto perché è di carta. La trasposizione in digitale in un testo del genere impoverirebbe proprio l'aspetto grafico, la giallezza della carta, cioè tutto ciò che c'è come discorso di meta narrativa andrebbe perso nel momento in cui io tentassi di farne un PDF o una cosa del genere, e la conversione in digitale sarebbe comunque in perdita. Quindi ad esempio questo è un testo in cui è un testo che io penso come digitalissimo, diciamo così, ma che funziona solo perché è di carta. Giusto. è un paradosso editoriale molto bello. Bene, l'ho cercato mentre ne parlavi. Praticamente, cioè, quello che dici tu ha la struttura di un ipertesto, perché ti porta, ogni pagina ha link a altri oggetti embeddati dentro, perdonami esatto. L'anglicismo, però, cioè, espone il, come dire, sfrutta la fisicità della carta utilizzando tecniche proprie del digitale, quindi anche del esatto. web. Bellissimo. Esatto, esatto. E lì è la materialità stessa che dice: beh, ma questo testo è un testo digitale che va letto su carta. Ok. Infatti sto vedendo che lo scrittore è Durst, però l'idea è di J.J. Abrams, il regista esatto, noto, esatto. noto e più, anche odiato da molti, però sì, diciamo, sì, una persona sì. non... Di bassa lega, una persona che ha un cervello ottimo. Sì, beh, sì, me lo segno, lo metterò per i nostri ascoltatori. Dai, allora, procedendo avanti, volevo farti una domanda. Una cosa che non abbiamo ricordato: i vostri libri sono privi di DRM quando voi li vendete. Questo è un punto sì, dolente per molte altre. Allora, noi non mettiamo mai nessun, almeno fino ad oggi non abbiamo messo mai nessun okay, DRM esatto. su nessuno dei nostri testi. Questo perché il DRM oggi è uno strumento scomodo, è uno strumento arcaico, è uno strumento che danneggia soltanto chi acquista. Chi vuole comprare un testo lo compra, chi non lo vuole comprare non lo compra. Il DRM come dissuasore ha una bassissima utilità, è fastidioso soltanto per chi acquista i testi e dopo un po', per un motivo come un altro, li si cancella dal lettore, deve cambiare computer, deve cambiare il lettore, si ritrova ad avere delle beghe inenarrabili per riuscire a trasferire le concessioni di lettura da un dispositivo all'altro. Quindi noi per scelta non lo facciamo. E aggiungo, per quanto riguarda il formato EPUB, la mancanza di DRM permette una seconda vita all'ebook, perché non è soltanto leggibile come ebook, ma è apribile e quindi è manipolabile. Molti nostri testi noi li vendiamo senza DRM perché ci aspettiamo che chi li legge poi possa aprirli, manipolarli, cancellarli, modificarli, faccia un po' quello che vuole, e avere dei veri e propri laboratori di scrittura contenuti all'interno dell'EPUB. Si parla ovviamente di lettori più skillati, ma secondo noi ci sono. Quindi voi invogliate l'hacking dei vostri testi? Sì, certo. Infatti io ho visto spesso, da quando tu scrittore sei molto attivo anche sui social network, vedo spesso i tuoi esperimenti in cui tu ti butti a fare robe con XQuery, XPath, eccetera. Sì. Queste sono robe che uno potrebbe applicare ai vostri testi per fare ricerche, per vedere certo. intersezioni tra vari testi. Cioè, molto, noi siamo i primi a farle, nel senso che noi impaginiamo i nostri testi applicando delle marcature XML abbastanza abbastanza sofisticati, diciamo così, in modo che poi noi stessi, alla fine, quando abbiamo completato la scrittura del testo in digitale, interroghiamo il nostro ebook e tiriamo fuori delle informazioni aggiuntive sul nostro ebook che inseriamo all'interno dell'ebook stesso. Quindi facciamo un lavoro di interrogazione dati attraverso XPath o XQuery per ottenere delle possibilità di letture ipertestuali parallele per leggere il testo stesso. Quindi non solo lo suggeriamo a chi ha in mano i nostri testi, ma noi siamo i primi a farlo per la costruzione del testo stesso. Ottimo, mi viene cioè, io non sono un esperto, quindi ti faccio farti una domanda. Come idea stupida, questo è un modo anche per generare indici analitici, indice dei nomi, esatto. A livello più semplice, poi immagino puoi fare anche query molto più complesse. Esatto, noi lo utilizziamo subito per la creazione appunto dell'indice. Noi ne facciamo, se un nostro testo, un testo ovviamente che sia adatto o una rivista, un testo di saggistica, un testo di informazione, man mano che noi marchiamo le cose, se è un nome, se è una data, se è un avvenimento, se a seconda del testo questo può cambiare, noi lo marchiamo con una semantica particolare in modo che poi creiamo degli indici per nome, per anno, per avvenimento, per qualsiasi luogo, cosa il testo richieda, cosa. Luogo, esatto. E questo è proprio il primissimo passo. Poi sicuramente si possono anche fare cose più sofisticate. Questo tra l'altro è una cosa che in tutti i libri che io, sia digitali sia non, che finora ho letto, spesso mancano. Se uno le progetta a monte mentre sta scrivendo, diciamo, diventa quasi automatico con il digitale poter produrre questi metadati fondamentalmente, sono extra dati, certo, che esistono ma che tu fai vedere. Ottimo. Perfetto. Questo è nato una volta un po' per caso nel 2010, proprio appena nati, abbiamo cominciato a fare la versione digitale di una rivista che nasceva quell'anno, che era Alpha Beta 2. Alpha Beta 2 nasceva su carta e noi realizzavamo la versione ebook. E mentre io taggavo, no, tutti i titoli dei libri con il tag site, no, che è uno dei tag XHTML, alla fine di quest'opera ho detto: beh, ma nel momento che io sto dicendo che questo è il titolo di un libro, in un certo qual modo io sto formalizzando una bibliografia. E quindi alla fine, quindi non solo per la modalità grafica, rendimi tutti i titoli del libro così, esatto, ma proprio per dire dove si parla di questo testo, si parla in questo articolo. E quindi da lì è nata l'idea di iniziare a fare degli indici interattivi per navigare all'interno dell'ebook. Ottimo, quindi c'è molto anche da giocarci con questi prodotti digitali, diciamo, oltre che leggerli, anche se non sono giochi. Sì. Diciamo. Ottimo. Allora, ti volevo fare un altro paio di domande e poi ti lascio, perché già la cosa mi sto adagiando. Questa okay. non è diciamo relativa proprio a voi, mi ha chiesto uno dei nostri colleghi di podcast, Francesco in particolare. Al giorno d'oggi, come adesso funziona il mercato, come lo vedete anche voi, il fenomeno del self-publishing, cioè gli autori che un giorno si svegliano e decidono di autopubblicarsi, è una cosa che va, diciamo, ne vale ancora la pena farlo o siamo già giunti a uno stadio in cui bisogna fare troppo? Cioè, ho dato un po' un'occhiata in giro e quelli che lo fanno con successo lo fanno come lavoro a tempo pieno, e tutte le figure dell'editore te le addossi tu. Quindi è una cosa che è ancora fattibile per chi voglia farlo, oppure, diciamo, siamo già in uno stadio in cui, come con l'editoria tradizionale, c'è bisogno di tutta la parte di editoria dietro? Ma io credo che il self-publishing sia in pieno fermento oggi, è un fenomeno ancora in ampia diffusione. Leggevo qualche settimana fa i dati sui numeri di titoli immessi in Italia nel 2014, se non erro, la percentuale più alta di titoli, ma in maniera sostanziosa, apparteneva, era legata a due aggregatori di self. Quindi il numero di titoli self è altissimo, e buona parte dei titoli novità attualmente in vendita come ebook sono self. Quindi è un fenomeno che, almeno dal punto di vista di numero di produzione testi, è decisamente in una fase ampia. Okay. E prima o poi arriverà, io credo fisiologicamente, poi un calo, nel senso che questi titoli sono tanti, ma ogni singolo titolo io immagino che non venda tantissimo. Il feedback che ho da alcuni self è che il numero di titoli venduti il numero di copie vendute per titolo in moltissimi casi supera di poco lo zero, ecco. Okay. Quindi ci sono anche molti titoli che non vendono, perché poi in un momento così ampio di persone che poi molto spesso sono slegate da un proprio discorso di pubblicazione, sicuramente in questo momento c'è un grande rumore di fondo. Credo che questo rumore di fondo continuerà ancora un po', perché è un mercato che mi dà l'idea di essere in piena crescita. Sicuramente quello di cui tu parli arriverà, ma arriverà con più lentezza. Io credo che ci vorrà ancora un po' perché si crei un self così consapevoli di sé da investire economicamente per la creazione di un titolo che abbia le stesse qualità artistiche, informatiche, narrative di un testo di un editore tradizionale, perché l'autore e il lettore non hanno forse percezione di questo, ma noi lato editore vediamo che c'è un grosso lavoro redazionale che è invisibile e che chi acquista il nostro testo non vede, che viene fatto invece su ogni singolo testo, non solo dal punto di vista di redazione, ma ora non vorrei dire una sciocchezza, ma il 90% dei titoli che abbiamo pubblicato in questi 5 anni non sono dei manoscritti arrivati in redazione, sono delle idee nate dall'autore o nate da noi o nate da un dialogo tra noi e l'autore. Cioè la casa editrice non è una sorta di distributore un po' più grosso, è un qualcuno che dialoga con uno scrittore e che magari gli commissiona anche un testo che ancora non è stato scritto, e questo non viene percepito molto dal lettore e in alcuni casi anche dagli scrittori, che pensano che l'editore sia soltanto un agente meccanico di distribuzione, esatto, delle loro opere. C'è poco più della posta, No, non è così. C'è un grosso lavoro anche sul materiale che ci arriva, di revisione, di dialogo, di discussione anche su quello che poi diventerà l'ebook, diventerà il libro, che è una cosa ben diversa dal manoscritto. Sono due cose diverse. Ok, infatti se tu pensi davvero alla parola stessa, editare un testo non significa semplicemente prenderlo e passarlo da qualche altra parte, significa lavorarci. Quindi è anche questa interazione tra voi e l'editore stesso che nasce qualcosa. Comunque hai ragione. Sì. Questa è una cosa che moltissimi, cioè, se tu pensi anche agli autori grandi, americani, eccetera, moltissima gente conosce l'autore o il titolo, però la casa editrice spesso passa in secondo piano, cioè pochissimi sanno se quella casa editrice ha prodotto quell'autore. E come tu ben sai, spesso case editrici diverse fanno diverse versioni di alcuni autori con, diciamo, risultati variabili. Quindi l'editore nel mezzo c'ha un grosso peso. Sì. Per questo viene, ahimè, avvertito molto poco, anche un po' per colpa di alcuni editori che effettivamente lavorano un po' poco con gli autori. Però la nostra esperienza in questi 5 anni è invece che più lavori con l'autore, più hai un interscambio con lui, più gli dai idee o più, diciamo così, metti al filtro le sue idee, migliore è il risultato poi finale. Alcuni testi che noi abbiamo lavorato insieme all'autore hanno avuto dei risultati sia di pubblico sia anche di critica decisamente buoni, perché è un team di persone che lavora tutti con una finalità unica. L'autore molto spesso non ha la consapevolezza, anche il distacco, per poter avere un'idea precisa di quello che sta facendo, perché l'ho appena scritto, perché è molto affezionato all'opera, oppure perché gli ha costato una fatica e quindi tagliare è una cosa che gli costa grande sofferenza. L'editore tutto sommato ha quel distacco che serve, ha quel distacco anche un po' cinico, che serve per dire: qui c'è troppa roba, qui ce n'è poca, qui questa informazione ne hai parlato una volta ma poi non è più parlato, qui che ne dici se queste cose invece che metterle qua le mettiamo qua, cioè dai delle idee allo scrittore, il quale potrebbe non, in quel momento non averci pensato, e quindi dargli anche dei modi perché lui possa aumentare, arricchire e migliorare la sua opera. Tra l'altro, una cosa che ho visto sui vostri social ultimamente, il premio, quelli di testi 15 che sono stati premiati, quello sulla Calabria di sì. Strada della Bella è stato premiato ultimamente. Sì, noi abbiamo avuto un testo, L'altra faccia della Calabria di Strada della Bella, che è stato premiato qualche settimana fa, e proprio è un premio che ci ha fatto un gran piacere. Uno, perché è un testo impegnato, che parla dell'impegno di persone che quotidianamente sono attive dal punto di vista della critica sociale. In questo caso si parla delle navi che potrebbero essere state fatte affondare al largo della Calabria cariche di scorie. Ma in secondo luogo perché è un testo che è un testo molto, molto particolare, perché l'autrice ha fatto questo viaggio in Calabria per fare un reportage per una televisione. Mentre faceva questo viaggio si informava, si documentava su questo problema delle navi e acquisiva delle fonti che utilizzava per scrivere poi il suo ebook. Nella fase finale di creazione dell'ebook tutte queste fonti erano delle note, vedi interrogazione parlamentare fatta in data tal dei tali. Ci siamo resi conto con lei, parlando con l'autrice, mettendo insieme tutti questi materiali, che queste fonti erano interessanti, erano fonti che davano forza al racconto della giornalista, al che alla fine abbiamo deciso di inglobare all'interno dell'ebook non soltanto il racconto della giornalista di Sara Della Bella, ma di mettere insieme anche tutte le fonti più significative che Sara aveva interrogato durante il suo viaggio. E quindi nella narrazione della giornalista, quando si parla ad esempio di un'interrogazione parlamentare, invece di esserci la tipica nota, vedi interrogazione parlamentare numero, c'è un link. Toccando il link si accede a un altro punto dell'ebook dove c'è lo sbobinamento dell'integrazione parlamentare, in cui vengono effettivamente dette le cose di cui la giornalista parla. La cosa è interessante sia per il ripensamento del concetto stesso di nota a piedi pagina. Perché metto una nota a piedi pagina? Perché non ho spazio di parlare di tutto su un libro di carta. Nell'ebook lo spazio è molto differente, posso avere quello spazio, sia perché per chi legge ascolta la versione della giornalista, ma potrebbe non credergli. Io dico sì, tu dici questo, ma sarà vero? Tocco e vado a vedermi direttamente la fonte che la giornalista ha utilizzato, e questo in un libro tradizionale non puoi averlo, non è così facile riuscire a mettere insieme sia la tesi che la controtesi. In questo caso abbiamo un ebook di giornalismo di informazione che, oltre che alle informazioni, contiene le fonti dell'informazione stessa. È una cosa abbastanza particolare e che secondo me nasce proprio per questo interscambio che abbiamo avuto a livello redazionale con l'autrice del testo. Da idea nasce idea ed è venuto fuori un testo secondo me molto molto ricco. Complimenti. È una cosa che io ho sempre criticato della stampa italiana in generale, ma anche dell'editoria, che quando si parla di qualcosa non sono mai le fonti, se non in libri diciamo particolari, saggistici, in cui ci devono essere referenze. Io sono un fisico, quindi tutto quello che io scrivo, cioè se ogni parola deve essere referenziata, detto perché è così e perché non è così. Quindi il processo di cui tu parli di l'editore come terza persona che è molto critica e quindi ha un punto di vista indipendente, per me è una cosa notissima. Questa roba delle referenze è interessantissima. Cioè, al giorno d'oggi non c'è più problema di spazio, e al giorno d'oggi dare una referenza, anche un solo link, è una cosa importantissima per dare una visione critica. Io, dal mio punto di vista, mi sono fatto, e che suppongo che moltissima gente non interessa farsi una visione critica di una cosa, cioè legge e quello che lì è scritto è quello, e non va a approfondire, però c'è una parte di persone come me che lo apprezza. Io penso che sia anche un po' legato al digitale. Io vedo mio figlio, che è uno dei miei figli, il quale quando accede una pagina di Wikipedia, la prima cosa che legge è la pagina di Wikipedia, poi appena ha letto clicca su discussioni e va subito a vedersi le discussioni che ci sono relativamente a quella fonte, per capire quanto quella fonte è affidabile. Credo che questo sia in linea, diciamo così, con una certa idea di testo digitale, che non è più io ti do una tesi e questa punto e basta, ma è io ti metto a disposizione la mia tesi, perché sono comunque uno scrittore e quindi è giusto che ti dia ti dica la mia versione dei fatti, ma ti do anche la strumentazione per vedere tutto ciò che può essere confutabile di quello che ti sto dicendo. Il quadro che ne esce a livello di informazione, di in alcuni casi anche di narrazione, è molto più interessante e soddisfacente. Ok, perfetto. Questo, diciamo, cambierà con le prossime generazioni. Quindi sì, chi è puramente digitale lo ha, diciamo, è intrinsecamente così. Sì, ottimo. Sì. Dai, allora ti voglio fare altre due domande veloci, mi dai un tuo giudizio e poi ho un paio di domande precise su di te, quindi le risposte possono essere, saranno brevi. Okay. Ho girato un po' questa idea di questa discussione che stiamo avendo un paio di ascoltatori. Qualcuno mi ha chiesto questa cosa. Secondo te, o comunque in generale, mi hanno chiesto di cosa se ne può pensare di un abbonamento digitale sulla scrittura, e quindi io subito ho portato come esempio i vostri abbonamenti agli scrittori, però mi dicevo un abbonamento tipo Netflix o Spotify, forse case editrici più grandi pensi che un giorno potranno fare una cosa del genere, cioè io pago un fisso mensile e poi posso, come fate voi con gli autori, però con tutta la biblioteca, per esempio. Beh, questo già avviene con Amazon, che ha lanciato un anno fa, no, forse un po' meno di un anno fa. Esattamente questo, cioè tu paghi un tot, un abbonamento, puoi leggere tutti gli ebook che fanno parte di un di tutti gli editori che accettano di fare questo. E avviene anche con alcuni aggregatori di testi più specialistici. In America ce n'è uno che si chiama Safari, che è vicino fa testi tecnici, se non sbaglio, no? Sì, esatto. Ok, Safari Online della O'Reilly. Bravissimo, esatto. Non mi veniva in mente il nome. Bravissimo. Testi fantastici, tra esatto. E aggrega tutti questi, tutti abboni, e hai accesso a tutti i testi. Secondo me quello di Safari ha senso, nel senso che io sono un medico, sono un informatico, sono una persona che ha bisogno di accedere velocemente a tanti testi per avere delle informazioni, e quindi quello può essere molto interessante, quindi non per leggerli ma per consultazione. Ho una biblioteca specifica del mio argomento, mi abbono e in un qualunque istante posso accedere a tutti i testi che ne parlano. Okay. Invece quello di Amazon mi lascia un po' più freddino. Sì, esatto, non solo me, nel senso che gli editori che hanno accettato di entrare in questo non sono tantissimi, noi no, e non solo perché il pagamento di per gli editori non è particolarmente interessante, ma anche perché le modalità, la tempistica con cui si legge un libro o un ebook è decisamente diversa dalla tempistica con cui si guarda un film o si ascolta un album. Essere abbonati per un mese significa leggere continuamente qualsiasi cosa. Beh, ma ci sono degli ebook che se io me li compro mi durano 6 mesi, se uno si legge Infinite Jest, per dire, ci mette il suo bel tempo, quindi potrebbe funzionare con testi molto brevi, con single, con serial, ecco, potrebbe funzionare con dei serial, però applicarlo alla narrativa onestamente mi lascia particolarmente dubbioso, a meno che dietro non ci sia un progetto un po' più ampio per scrivere a testi ad hoc per questo tipo di abbonamento. Okay. Mi viene in mente una reinvenzione del cosiddetto romanzo d'appendice. Faccio un testo che aumenta di mese in mese, quindi una persona si abbona e lo ritrova di mese in mese che aumenta sempre di più, però richiederebbe comunque un intervento intelligente da parte dell'editore. Invece, così come presentato ora, in cui semplicemente si mettono insieme ebook usciti e quindi una persona si abbona a tutti gli ebook, sia dal punto di vista economico per l'editore sia dal punto di vista del lettore, non mi pare per ora perlomeno che sia particolarmente interessante. Che mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, anche un'altra casa editrice da cui io prendo testi tecnici, che si chiama Pact Publishing, anche loro hanno questa come Safari più o meno, hanno testi molto tecnici in informatica, alcuni sono stati davvero utili, hanno questa possibilità. L'ultima cosa che hai detto mi ha fatto ricordare, c'è un altro casa editrice online che si chiama, non so se è una casa editrice o un aggregatore, che si chiama Linpub, dove anche ho preso vari testi, a volte sono anche testi che tu puoi prendere gratis, però ti dà la possibilità di sostenere un autore, e ogni volta che fa una versione nuova viene pubblicato come update, quindi tu ricevi sempre l'update sulla nuova versione. Sì. Quindi questa è una cosa abbastanza, diciamo, casi estremi che esistono, però insomma, come dici tu, applicato al grosso pubblico è una cosa un po' immatura, diciamo, ancora. Certo, sì, sì, probabilmente anche perché comunque il grosso pubblico ancora non è così grosso. Sì, ok, piccolo grosso pubblico. Ottimo. L'altra domanda che mi avevano proposto sempre gli ascoltatori era, per esempio, come Cory Doctorow. Cioè, Cory Doctorow ha distribuito tutti i suoi libri, sono free praticamente, cioè lui li dà sul suo sito, però li vende anche. Sì. Questo è un modello che però può fare solo qualcuno che vende milioni di copie, immagino. Noi in realtà abbiamo fatto delle sperimentazioni di questo tipo. Abbiamo alcuni dei nostri testi sono venduti, ma sono venduti con Creative Commons, che consente la distribuzione, soprattutto quelli di informazione, una collana che si chiama Ping the World, dove noi abbiamo creato dei testi aggregando insieme una serie di articoli di blogger attraverso Global Voices, creando quindi dei testi che a loro volta erano scelti ad hoc in mezzo a centinaia e centinaia e centinaia di blogger. Abbiamo scelto alcuni testi che messi insieme davano un'idea di un argomento. Ne abbiamo fatto alcuni sulla democrazia digitale in Cina, piuttosto sulla connessione effettivamente dell'Africa, l'utilizzo del digitale in Africa. Per alcuni di questi testi abbiamo usato il Creative Commons su un'azione indiana. Uno dei nostri testi è stato messo in distribuzione gratuita, ben dicendo che è un testo commerciale, quindi con la possibilità che chi volesse poteva comprarlo. E proprio questo di cui sto parlando, che era a 70 km dall'Italia, che quindi è stato venduto, era negli bookstore e contemporaneamente è stato per un certo periodo su un'azione indiana in distribuzione Creative Commons, è uno dei nostri testi che all'epoca aveva venduto di più. Quindi la distribuzione parallela a Creative Commons non aveva assolutamente inficiato o azzoppato poi le vendite tradizionali. Quindi no, io credo che siano molto spesso due pubblici differenti, quindi chi vuole, chi acquista solo con Kindle perché sa acquistare solo su Kindle, comunque lo acquista su Kindle, non si va a cercare nel sito la versione che poi deve downloadarla, copiarla sull'ebook reader. Okay. Quindi c'è la possibilità anche di nei limiti della percentuale che abbiamo oggi qui in Italia, c'è comunque la possibilità di diversificare anche a seconda del lettore che tu hai. Ottimo, buono a sapersi, perché avrei dato per scontato che una cosa del genere in Italia era impensabile, quindi c'è pubblico per questa roba, bello. Secondo me quello, dal punto di vista mio, dà anche un valore in più, perché voi date fiducia al lettore, quindi gli dai tutta la possibilità di fare quello che vuole con i tuoi testi, e se vuoi comprare, cioè puoi leggerlo, e poi se vuoi davvero che ti piace e supportare lo scrittore e la casa, lo compri. Quindi l'unico caveat che mi sento di dire, per onestà, stiamo comunque parlando di numeri relativamente piccoli, perché comunque si sta parlando non solo del 5% qui in Italia, ma parliamo di Quinta di Copertina, che è un editore indie, quindi anche l'esperienza che noi possiamo dare dal punto di vista dei numeri è comunque l'attenzione che il lettore può avere per un editore nascente. Quindi non voglio neanche dare delle speranze di infinite vendite, perché è un mercato abbastanza difficile. Vabbè, quello là si rientra anche nella famosa discussione, sai, sulla musica, cioè la pirateria, o anche, cioè, se io do robe gratis, questo cannibalizza il mercato di chi le compra, o viceversa? Cioè, anche quelle, ti ricordi, non so se hai visto quell'analisi che avevano fatto, per cui chi erano quelli che piratavano erano quelli che compravano più robe sul mercato digitale, e quella è stata abbastanza controversa. Quindi se uno va sui grandissimi numeri, ovvio che se io vendo robe in decine di milioni nel mondo, c'è molta gente che cercherà di non pagare. Però se tu riesci a sostenere il tuo mercato, secondo me va già bene. Sì, sì, la nostra filosofia sostanzialmente anche nei confronti delle copie illegali è anche quella. E a noi non interessa che qualcuno copi per il fratello, per la fidanzata, un nostro ebook. L'importante è che ci sia la percezione che Quinta di Copertina sia una casa editrice degna di essere sostenuta attraverso forme di abbonamento, attraverso l'acquisto degli ebook. È quello che ci importa. puntata. E, la singola addirittura in alcuni casi posso dirlo, abbiamo noi stessi messo alcuni nostri test in Creative Commons sul circuito peer-to-peer per vedere un po' cosa succedeva, cosa che di solito non avviene. E quindi perché comunque quello che ci interessa a noi è far capire che dietro al lavoro che noi facciamo c'è un certo discorso di qualità e che quindi è più conveniente sostenerlo. Ok, e voi mettete più, come dire, mi viene una parola tedesca, però passione, ecco, in questo caso, nella cosa, più che cercare di vendere uno, cioè non vendete il salame, fondamentalmente quell'oggetto è importante, ma è la vostra passione, il vostro tempo, il vostro amore per il prodotto finale che è molto più importante, e l'oggetto in sé, ovviamente. Speriamo. Ottimo. Senti, allora io avevo un altro paio di cose che però forse esulano un po', era una panoramica sui dispositivi per la lettura, quello è un mondo a parte, diciamo. Te la faccio veloce così, faccio un paio di domande finali. Dai. Per te. Qual è il tuo reader preferito, sia hardware sia software? Quindi se tu devi cominciare a leggere, cosa prendi? Su un certo hardware e un certo software? Allora, io in questo momento ne ho uno che amo molto, che però non consiglierei perché è abbastanza particolare, nel senso che sto usando in questo periodo un Onyx M22, mi pare che sia il codice, e mi piace molto perché è un ebook reader grosso, è un 9 pollici 7, quindi decisamente spazioso, è inchiostro elettronico, e un'altra cosa che mi piace è che è il pennino, perché io detesto abbastanza il touch, perché non so mai come prenderlo in mano senza attivare 20.000 touch che io non voglio. Con il pennino, sia la selezione degli appunti, sia appunto la scelta delle cose è più precisa. Esatto. La seconda cosa che mi piace molto di questo ebook reader è che al suo interno Android e al Google Play aperto. E questo mi ha permesso di fare un sacco di sperimentazioni. Il mio ebook reader c'è Python installato, ci faccio girare Processing, che è la libreria per Arduino, se non sbaglio. Sì, no, è per creare delle applicazioni molto, diciamo, che credo che sotto sia Java, e molto spinte dal punto di vista della performance visuale. So che è usato per performance statistiche e cose del genere. E c'è Gitden Reader, che è un ebook reader per EPUB 3, quindi su questo ebook reader posso fare anche qualche sperimentazione di cosa significherà l'EPUB 3 su inchiostro elettronico, e quindi è un ebook reader col quale posso smanettare, che a me piace molto, se posso usare questo termine. Sì, ma con da tanti noi è limiti, perfetto, con tanti limiti, tante difficoltà, tante incompatibilità, e però non mi dispiace, mi ci diverto molto. Sono terrorizzato che si rompa, però per adesso sono riuscito a non rompere. Ma se non sbaglio è fuori commercio, o mi ricordo No, vai viene, nel senso che comunque è un prodotto cinese o cosa, è importato da due importatori europei, in Italia non credo che ci siano, ma in maniera abbastanza discontinua, un po' a singhiozzo. Okay. a volte arriva, a volte no. Infatti ne ho avuti vari, tra Kobo, e ultimamente sto usando un Sony, però di quelli non il PSR, quelli appena dopo, quando nacquero con la nuova, che anche hanno Android, e la cosa che mi è sempre piaciuta è che ho potuto hackarli e potevo utilizzare Android, però ti giuro, non essendo nativo, è una roba di uno sconforto, cioè si blocca. Infatti l'Onyx l'avevo adocchiato oggi, stavo quasi pensando, quindi a supporto per Android nativamente. Sì, sì, sì, sì. Ottimo. Quindi, ovviamente con tutti i limiti del caso, perché lui supporta Android, supporta Google Play, ma nessuna applicazione di Android è stata scritta per inchiostro elettronico. Quindi alcune cose funzionano incredibilmente bene. C'è una applicazione per fare calcoli matematici scritti con il pennino, che è una delizia. Nel senso che tu scrivi il calcolo matematico a mano, le espressioni, lui automaticamente le calcola, e quella funziona col pennino, funziona estremamente bene. Altre no, altre sicuramente hanno tutto ciò che è multimedia, non va bene perché l'inchiostro elettronico ha un refresh lento. Vabbè, fatto per un altro oggetto. Io come lettore sto usando attualmente QReader 3, ma c'era, se non sbaglio, come si chiama? Ne utilizzavo un altro che non è Alkido, Moonreader, se non sbaglio. Comunque uno di questi che ho nominato c'ha nelle impostazioni un extra checkbox per ottimizzazioni per e-ink, quindi elimina tutte le transizioni, tutte le robe fighe. Ah, carino. Se poi lo trovo lo link, mi ricordo poi questo pulsantino. Fatto quello è andato decisamente meglio, perché tutto il multimedia sotto e-ink è pietoso, non si può. Sì, no, certo. Esatto. Perché comunque usano delle transizioni, spostamenti, eccetera, che su e-ink sono, no, no, sono pesanti. Esatto. Quello che invece non consiglio nessun lettore di ebook come software, perché io che li utilizzo principalmente per leggere saggistica, la gestione degli appunti è ancora su qualunque software io abbia utilizzato è rudimentale. Decisamente rudimentale rispetto agli sgribizi che uno può fare su un libro di carta. Da questo punto di vista ci sono alcune cose fatte meglio, alcune cose fatte peggio. Con il pennino è molto meglio, ma ancora comunque il software non fa quello che potrebbe fare. Esatto, diciamo che anche in questo caso è anche una questione che ogni editore, diciamo, a parte il fatto tipo Kindle, Apple, che cerca di recintarti e di farti stare da loro, poi ognuno implementa le cose da zero in un modo diverso, quindi certo. Anche perché dobbiamo dirlo, ad oggi credo che le cose cambieranno nei prossimi anni, ma ad oggi l'EPUB non ha nessuna specifica per gli appunti. Okay. Il che può sembrare una cosa assurda per un libro di per una specifica per testi, ma in realtà non c'è niente che permetta a noi di gestire gli appunti, quindi è delegato per forza ai device, i quali sono, esatto, ben felici di creare delle forme private, il più possibile, diciamo, vincolanti. Ma se non mi ricordo male, quando hanno sviluppato l'EPUB, quando uscì l'EPUB, una delle grosse critiche era il fatto che era stato principalmente fatto un upgrade in direzione del web, cioè non per i testi ma per robe spintamente super interattive, quindi non c'erano state enhancement per lettura specifici molto molto puntati a quello. No, infatti uno dei grossi limiti dell'editoria digitale anche per le Babbo 2, noi facciamo ebook utilizzando strumenti nati per il web, e questo in alcuni casi va bene, in altri casi decisamente ci crea limiti, vincoli, e crea problemi anche a chi scrive i lettori di ebook reader, perché si ritrovano davanti a situazioni completamente diverse rispetto a quelle del web. Faccio qualche esempio anche banale: come mi comporto se ho un'immagine che mi finisce metà in una pagina e metà nell'altra? Nel web scrollo, in ebook reader no. Che succede se una tabella esonda fuori dalla pagina? Esatto, rimpicciolisco, taglio. Sul web scroll, dipende, non è così giusto, facile. Giusto. Oppure se dico che questo paragrafo è su due colonne, come mi comporto se il paragrafo dura più di una pagina? Giusto. Ora come ora quasi tutti gli ebook reader la prima colonna continua la sua lettura nella seconda pagina e poi torna nella seconda colonna della pagina prima, quindi in maniera abbastanza improbabile, e così via. Ce ne sono tante perché il concetto di pagina web e il concetto di pagina fisica degli ebook reader sono completamente diversi. Esatto. E non ci sono strumenti neanche nei CSS per avere una buona gestione della pagina virtuale degli ebook, quindi viviamo anche da un punto di vista della digitalizzazione ebook in una sorta di medioevo spinto, nel senso che abbiamo una serie di strumenti avanzatissimi e una mancanza di altri strumenti base abbastanza imbarazzante, come i dizionari, come i glossari, come le annotazioni, cose che sono previste in un futuro non tanto lontano, sono già nelle prossime specifiche dell'IDPF, ma ad oggi non le abbiamo, non ci sono. Quindi questo mi fa dire che in alcuni aspetti il digitale è decisamente inferiore alla carta, cosa che vedo spesso anche quando prendo appunti. Però questo è bello vivere una specie di far west ancora, però cioè, per alcune cose è bello avere. Era più divertente nel 2010, ora inizia a essere un po' pesante, esatto, però sì. Va bene. Ok, perfetto. Allora, come ultima domanda, una cosa che ho chiesto ogni tanto a alcuni invitati: quando tu devi scrivere qualcosa attualmente o anche fai i tuoi esperimenti, che editor di testo usi? Allora, tendenzialmente, se è una primissima bozza, uso Text Wrangler, che è un text editor per Mac, free. Molto free, molto semplice. Nel momento in cui diventa una cosa un po' più complessa, utilizzo Oxygen, che è un pacchetto di creazione XML con il quale io lavoro in pratica su tutto, in quanto ormai sono abituato a fare tutto in XML. Okay. Direi che principalmente gli editor che utilizzo sono questi. Okay. Ormai il word processor, non, un tempo usavo Mellel, ma ormai non... Mi viene più difficile ormai che sono entrato in una mentalità XML, vedo i tag anche quando, quando cucino. E il usare un word processor mi sembra un passo indietro, mi viene più difficile. Esatto, ho più facilità a marcare tutto quello che faccio, perché così mi vengono già delle idee su cose che potrei fare col testo che sto scrivendo. Infatti. Ottimo, una cosa che a me criticano spesso, perché anche io uso le lezioni di testi basici, però diciamo, paradossalmente hai più controllo con robe basiche che utilizzando un word processor avanzatissimo. Sì, sì, sì. Ottimo, perfetto. Io direi che abbiamo coperto più o meno tutto. Fantastico. Ti ho disturbato abbastanza, quindi anche tu avrai le tue cose da fare. Fabrizio, ti ringrazio tantissimo e ovviamente ai nostri ascoltatori do l'opportunità di venirvi a trovare. Lascerò tutti i link dei vostri siti, delle robe di cui abbiamo parlato. E quindi andate a fare un giro su Quinta di Copertina e troverete sicuramente qualcosa di interessante che stuzzicherà tutti gli appetiti. Benissimo, grazie e buone letture o buoni ascolti o buona tutto. Interattività buono, grazie, salve. Grazie mille, ciao, ciao. Bentornati dopo questa intervista fatta con Fabrizio. Io l'ho ascoltata, l'ho gradita parecchio, perché ha tirato fuori un po' di argomenti secondo me molto molto importanti. Per esempio la questione che un sacco di case editrici, quando è cominciato la questione di digitalizzare i libri, hanno fatto fare l'OCR dei loro libri perché non avevano più i file. Sono rimasto veramente basito. Ma poi dove l'hanno fatto fare? Cioè, minimo in paesi come, non so, India o Corea, dove non hanno assolutamente idea se una parola cosa significa. In effetti, se tu guardi un sacco di libri, io ne ho comprati un po' di libri digitali per il Kindle, ci sono queste parole scritte malissimo che dici boh, ma neanche un correttore banale te le avrebbe fatte passare. Cioè, il correttore di Word, dico. Sì, sì, è giusto, però alla fine non utilizza, a parte che loro prendono il prodotto... Cioè un'azienda grossa, posso immaginare che loro subappaltino questo lavoro e poi tutto il materiale che arriva hanno pagato e quindi ciao, non possono controllare decine di migliaia di testi. Quindi c'è poca, secondo me, come dicevo, Fabrizio poi ne ha parlato, però io ho sempre avuto questa idea, almeno delle case grandi c'è poco amore per il prodotto, quindi te lo danno, se funziona bene, se non funziona, la maggior parte degli utenti non si lamenta neanche, cioè non fa sentire la propria voce. Ma tanto, quindi... guarda che ci ho provato, se ti lamenti mandi il messaggio a Amazon, non ti rispondono, ma tra l'altro non è neanche Amazon che deve rispondere, sì, ma è l'editore, non lo farà mai nessuno. Mentre mi è piaciuta tantissimo la questione che loro fanno senza DRM, perché adesso la vera differenza, oltre al fatto che quando vai in vacanza non ti devi portare 12 kg di libri, è che tu non hai comprato il libro. Tu su Amazon hai comprato il diritto a poterlo leggere, il libro non è tuo. Non essendo tuo, Amazon può fare come aveva già fatto: se ti chiude l'account tu perdi tutti i libri. Esatto, oppure se per qualche problema di pagamenti e genere decidono che il tuo denaro non è buono per qualche modo, dice no, vabbè, tu non puoi avere la licenza di questo libro per risiedi in un posto sbagliato, non puoi usarlo in quel paese. Pensa ai posti come Cina, dove sono i firewall statali, eccetera. Cioè, a quel punto il tuo diritto di utilizzare la roba che hai comprato è viene completamente meno. Cioè, tu non possiedi più nulla. No, tu hai il diritto a utilizzarla, è la stessa cosa. Entro certi limiti, quello intendo. Sì, andiamo un po' fuori tema, anche la musica. Tu compri la musica su iTunes, non puoi passare la tua libreria ai tuoi figli. E tu hai, e quando tu muori, la libreria muore con te, è finito. Ai, ai, ai, vabbè. Dovrà cambiare questa cosa, perché anche come la... In realtà anche per la musica ci sono servizi che offrono la vendita senza DRM, eccetera, però ovviamente costano, hanno prezzi diversi. Giganti come Amazon è parallelo di Apple in questo caso, no? Beh, ma no. Apple ha fatto il grosso passo che i file te li vende con il tuo nome schiantato dentro, ma senza DRM. Quindi tu puoi ascoltarlo un po' dove ti pare. Giusto. Se tu compri un libro per Kindle, per spostarlo un po' dove ti pare, devi sproteggerlo, punto. Vabbè, mo io non... allora diciamo, io non lo faccio, ecco, diciamo così, però mio cugino mi ha detto che conosce uno che gli ha detto che è abbastanza semplice, quindi se qualcuno mi chiede consigli in questo campo, io potrei anche, diciamo, passare notizie di terza mano e spiegarvi un po' come si fa questa cosa, perché secondo me è un diritto fondamentale, mo, non per passare a chi volete, però per avere il controllo totale. Io quando compro robe su Amazon, tramite questo amico di mio cugino posso sempre fare in modo di utilizzare la roba loro su qualsiasi device, altrimenti dovrei utilizzare un device registrato su, con un lettore Adesum, per esempio quello lì di Amazon, che io non ho, che io ho un Ink vecchissimo. Quindi è un discorso abbastanza complesso, però secondo me in questo caso è corretto fare dei file che tu hai comprato, quello che vuoi, nei limiti ovviamente della legalità, nel senso che li usi per te. Però perché non posso leggere quello che io ho comprato dove voglio, come il libro normale? Cioè lo vedo come un parallelo con i normali libri, io li leggo dove voglio, li regalo, però quello è un, diciamo, un passo un po' più complesso per la differenza sostanziale tra oggetti digitali e oggetti fisici, cioè la riproducibilità è un pelo più semplice nel mondo digitale, quindi lì sarebbe ancora da discutere. Poi sono anche lì meccanismi di prestito da biblioteche o robe che vengono utilizzate al giorno d'oggi da qualcuno, in realtà non sono ancora così diffuse, però è una cosa che esiste. A Torino, quindi, c'è, esatto. Se tu ti registri sul loro portale, loro ti prestano i libri in ebook. Vedi? Il libro te lo puoi tenere, ora non mi ricordo se è 2 settimane o un mese, poi il libro non, banalmente non funziona più. Ma anche in quel caso questa cosa di non funzionare più sarà protetto tramite un DRM. Il fatto è che te lo prestano e a questo punto il DRM fa la funzione del libro di carta, quando tu vai in biblioteca te ne prendi uno e glielo rendi. Il problema grosso che trovo sempre io è che l'implementazione del DRM è fatta in maniera, come dire, che fa contenti i grandi distributori. Alla fine, se Mondadori, diciamo, vende un libro a una biblioteca e loro gli assicurano che hanno, come faceva Apple all'inizio, no? Cioè tu devi assicurare al produttore che ha un meccanismo, come dire, indistruttibile, che protegge i tuoi file, che è una cosa stupida, non esiste una cosa del genere al giorno d'oggi. Quindi, ma tanto qualunque DRM tu faccia viene poi aggirato, quindi esatto. C'è quindi ben poco da fare. Va trovato secondo me un modo alternativo, adesso non ho idea di quale sia, ci andrebbe pensato. Prima cosa, aumentare la responsabilità e sensibilità del popolo, cioè se tu non dai mai a nessuno la possibilità di pensare su queste cose e gli dai semplicemente delle soluzioni che funzionano male, la gente si disabita fondamentalmente a usare questi prodotti e basta, o pensa che siano cose fatte male di base, quando in realtà è solo l'idea di come proteggerli che è fatta male. Quindi non lo so, è un processo che nei prossimi anni dovrà evolvere e ci dovrà essere un dibattito, come c'è in molti ambienti. Se voi seguite Fabrizio sul suo sito e sui social, lui è molto attivo in questo campo anche. Comunque, vi farete un'idea vostra, immagino. Quando ne avete voglia di discutere, potremmo discutere sui nostri canali. Sì, diciamo che potremmo parlare di DRM per più o meno 6-7 mesi continuativamente senza neanche dormire, ma non si arriverà mai alla soluzione definitiva, perché chi ha la proprietà dice no, tu non me lo devi duplicare, chi lo deve usare dice sì, però tu devi farmelo usare in maniera facile. E secondo me alla fine, con i libri non lo so come se ne uscirà, con la parte multimedia si è risolta questa cosa con lo streaming, a parte il fatto che i cantanti non sono contenti perché gli arriva pochi soldi, molti meno della vendita dei CD, che io non pensavo, ma c'è tantissima gente che esce l'album del tal cantante, vado e mi compro il disco. Io non lo faccio più da anni, anzi non ho più neanche un lettore CD a casa, quindi starci neanche io effettivamente, cioè ho dei miei CD che avevo comprato tanto tempo fa, sono lì in uno scaffale e sto pensando di venderli oppure di regalarli, perché sono lì, sono in questa casa da 4 anni e non li ho mai toccati. Guarda, io ne ho un po', ho rimesso mia moglie ultimamente a posto della libreria, abbiamo buttato una quantità di CD, sai, tutti quei CD dei residui anni 90, inizio 2000, copiati con robe assurde sopra che non sai cosa c'è, via, tutti buttati. Ne abbiamo un po' originali, e stavo pensando a alcuni originali che mi sono particolarmente piaciuti, tipo album dei, non so, Smashing Pumpkins, quello primo che c'ho, di tenermi più come feticcio di ricordo di quei tempi, però usarli effettivamente... No, io ho di tutti i CD che ho, mi sono fatto tutti i rip in, in MP3. Io ormai ascolto tutto o dal Mac o da Volumio o dal telefonino in macchina, quindi... Beh, l'unica ovvio, sarà... Prego. No, vai. No, stavo pensando un giorno, quando ne avevo tempo tra figli e varie cose, di ritornare al vinile, che sta ritornando anche un sacco. E in quel caso... Però devi avere non solo il tempo, anche lo spazio. Sì, lo so. È come i libri di carta. Noi sì, abbiamo sì. Ormai dismesso tutto quello che è libri cartacei, perché abbiamo tutto in ebook, tranne alcuni manuali. Abbiamo la nostra libreria con i manuali di informatica. Anche libri di fotografia, di architettura. Sono cose che rendono più sul cartaceo. Però il grosso, la narrativa, per me, non è inutile avere quintali di carta a casa, che leggi una volta nella vita, tra l'altro. La libreria è molto bella, fa molto figo, ma secondo me... ci sono degli altri modi per occupare lo spazio. Il vinile purtroppo è la stessa cosa, devi avere il posto dove mettere il giradischi, e poi i vinili occupano veramente tanto tanto spazio. Guarda, quando io ero, stiamo parlando dei metà anni 90, con alcuni amici avevamo una società in cui facevamo feste, e ovviamente avevamo tutto su vinile, ma noi abbiamo ancora, penso, un garage mio amico pieno di vinili fino al tetto. Cioè, fantastico, è una quantità di roba assurda. E poi ovviamente il vinile, chi se lo ricorda di voi, è un bel pezzo fisico grosso. È vero. Soprattutto è anche abbastanza fragile, cioè se non stai attento si rompe, quindi... E si rovina con l'uso, cioè non ci sono proprio modi di non usarlo, di non rovinarlo, perché è contatto fisico con la puntina, quindi infatti. Dopo tanto... Vabbè, stiamo divagando. Come sempre siamo esatto. Riusciti a divagare su argomenti che non c'entravano assolutamente un tubo. Chiudo solo col fatto che Mario adesso dovrà assolutamente chiedere a Fabrizio i contatti della persona che lui conosce, che ha fatto Avventura nel Castello. Io lo voglio in trasmissione. Ricordatelo. Infatti c'entra nei prossimi punti che volevo dare ai nostri utenti. Io sono un cliente della casa editrice Quinta di Copertina di Fabrizio. Avevo un paio di titoli in particolare di cui abbiamo discusso, ma alcuni in cui abbiamo solo accennato, che volevo ricordarvi in questo video prenatalizio. Andate a darci un'occhiata, secondo me alcuni di questi potrebbero veramente piacervi, fatevi un regalo. Posso andare, o qualcos'altro da dire? No, vai, procedi pure. Ok, allora, tra alcuni libri che abbiamo parlato e non parlato, solo accennato, c'è il libro sul Deep Web, che potete trovare, vi lascerò un link. La cosa interessante, a parte tutta la parte di analisi o di spiegazione di cos'è il Deep Web, c'è quella parte che io ho testato sul libro di Quinta di Copertina, c'è una parte finale in cui con alcuni e-reader, parlo non di e-reader hardware, ma di alcuni programmi di lettura di testi digitali, in cui un capitolo viene praticamente tirato giù tipo RSS ogni volta che voi lo aprite, quindi si collega a, mi sa, i server di Quinta di Copertina, e tira giù un feed di notizie, quindi creando al volo un capitolo di news che è davvero di news momentanee, quindi non è più come un giornale che tu lo apri e il giorno dopo è vecchio, quindi quel capitolo verrà sempre aggiornato se il tuo lettore lo permette, con davvero le notizie, cioè sempre al momento che lo apri aggiornato, se sei online ovviamente. Quindi il libro sul Deep Web consiglio di darci un'occhiata, che è molto interessante di suo. E per poi passare a una cosa molto più giocosa, che sono ovviamente quelli chiamati, che io chiamo i libri gioco, che tutti voi vi ricorderete, di cui abbiamo parlato anche con Fabrizio. Oddio santo, ma quelli simili alle edizioni EL, quindi Sortilegio, Lupo Solitario. Esattamente. Che quelli. Bello. Sono tornato in un attimo bambino, me li divoravo. Esatto. Parliamo di anni 80 effettivamente, no? Una roba così. Che bello. 80-90 penso, sì, perché... Sì. Sì, fino agli anni 80, perché sapevo leggere. Agli 80 io avevo 10 anni, forse li leggevo alle medie più che alle elementari. Ah, ok, sì, anch'io. Fino agli 80, dai. E, praticamente loro hanno cominciato a fare una serie di libri basati sullo stesso meccanismo. La cosa fantastica è, come abbiamo parlato un po' nelle interviste, che non avendo nel formato che loro utilizzano alcun tipo di variabile, non è come un videogame al giorno d'oggi in cui tu fai un'azione, registri uno stato, quindi trovo una spada, e quindi da quel punto in poi tu hai sempre una spada. Fabrizio fondamentalmente ha anche in alcune presentazioni fatto vedere come hanno fatto. Ovviamente scrivono tutti i possibili scenari nel libro che voi comprate, che avete in mano, sono tutti i possibili scenari. Quindi man mano che voi nella storia vi evolvete, fate oggetti, cioè trovate oggetti o fate scelte, vi seguite una certa serie di nodi e quindi sviluppate la storia in un certo modo, ma tutte le altre ci sono, non vengono costruite al volo. Questo grazie anche al contributo di Enrico Colombini, a cui Francesco accennava prima, che ha scritto uno di questi libri. Il libro che lui ha scritto si chiama Locusta Temporis. Io ho giocato o letto, dipende dai gusti, è davvero molto, come dire, veloce da leggere, divertente, e ti intrattiene. Secondo me è davvero una bella cosa per tuffarsi nel passato. Enrico, come accennava Francesco, è lo scrittore della prima avventura testuale per Apple II, ed era nell'80 e qualcosa, inizio anni 80, quindi davvero una delle primi giochi per Apple in italiano completamente. Quindi, io ci avevo giocato su PC, ma penso poi a, sì, a metà degli anni 90. Sì. E comunque, se riusciamo a avere tramite Fabrizio il contatto, possiamo vedere se Enrico vuole concederci una piccola intervista, anche parlare di questi meccanismi di gioco che lui ha sviluppato insieme a Fabrizio per la quinta di copertina. Guarda, se riesci a farti dare il contatto, io ne sarei molto felice. Sicuramente, dobbiamo vedere se anche lui ha voglia. Non è che vabbè, certo, è ovvio che se non ha voglia, pazienza. Poi un altro oggetto che volevo consigliarvi è il libro scritto da Fabrizio stesso, che si chiama Che ho ucciso David Crane, che è un po' più improntato alla, come dire, come diceva Fabrizio, questi libri possono essere più improntati, diciamo, sulla parte di azione, quindi sono la parte di scelte più importante, o la parte letteraria fondamentalmente. E questo qui è un mix, quindi diciamo un po' meno gioco di quello di Enrico, però a me è piaciuto davvero anche tanto anche questo. E il libro si chiama Ho ucciso David Crane, e io sono ancora impantanato da anni nella parte finale, in cui c'è un mega labirinto fatto a scelte, che vi giuro, nonostante abbia disegnato il labirinto e tutto, è davvero complesso, però lo consiglio davvero, è veramente molto bello. E in ultimo, aggiungerei solo un piccolo dettaglio, scusa se ti interrompo. I libri costano 3 euro, 3,5 euro, cioè regalateveli per Natale, e regalateli se volete, perché tanto sono anche senza DRM, come abbiamo detto. Sì, però visto che sono senza DRM, se lo comprate per 8 parenti, compratelo 8 volte, regalateli ognuno, perché tanto poi sì, effettivamente sarebbe un regalo un po' da furbetti, comprarne uno e poi regalarlo a tutti. Quindi voi regalate, ne comprate uno per ognuno, così sostenete anche qualcuno che fa davvero qualcosa di buono, quindi Fabrizio e la sua casa editrice in questo caso. L'ultimo che volevo consigliarvi è quello che si chiama Verrà HP Avrà i tuoi occhi, di Antonio Koch, che questo qui in realtà è molto più sulla sperimentazione, quindi come ha anche detto un po' Fabrizio, è un testo particolare, quindi dateci un'occhiata anche a questo. Come diceva Francesco prima, costano davvero poco, quindi se volete fare una panoramica sui vari tipi di implementazione che questi libri gioco possono avere al giorno d'oggi, secondo me comprarne un paio e provare e capire cosa significa avere un libro interattivo senza interattività è davvero interessante, cioè capire davvero cosa significa sperimentare nel campo dell'editoria digitale al giorno d'oggi. Io sono, c'ho un rispetto per loro e per la casa editrice davvero alto, quindi ve lo consiglio. Ok, io direi che con questo non ho altro da aggiungere per questa puntata. Bene, direi che allora siamo passati alla parte di chiusura di questa puntata. Diamo i nostri contatti, che sono i soliti sui soliti canali. Noi non ci stancheremo mai di ricordarveli. Ci trovate su Twitter a GCookiescast. Se volete mandare qualcosa di un po' più corposo, ci potete mandare una mail a gcookiespodcast@gmail.com. Noi, tempi permettendo, rispondiamo a tutti. Ci trovate sul nostro sito gcookies.github.io, dove trovate la parte di commenti e trovate tutti i link che normalmente noi non possiamo darvi lettera per lettera durante le varie puntate. C'è la community su Google Plus, gcookies podcast. Ci trovate su iTunes e su Stitcher, la nuova piattaforma di Google. Se vi piace il podcast e avete voglia di lasciare commenti, recensioni e tante stelline, noi siamo felici. c'è una novità, c'è un canale IRC su Freenode che è cancelletto gcookies, dove ogni tanto sia io che Mario siamo lì, possiamo chiacchierare, potete chiacchierare tra di voi, gli argomenti sono assolutamente quelli del nostro podcast, quindi esatto, schedine, però, programmazione, esatto, roba nerd, insomma queste, però lì siamo un po' più sbaccati, quindi sarà una cosa un po' più tra amici, diciamo che è un test, vediamo come che va, come se questa cosa prende. Potremmo instaurare poi un canale un po' più stabile, un po' più persistente di una chat, esatto, IRC, dove si possano condividere cose. Ne possiamo, okay, parlare, vedremo. Siamo aperti a qualunque cosa. Mi raccomando, non chiedeteci di mettere su un sito come Google Plus, perché c'è già Google Plus. Esatto, non abbiamo tempo, essenzialmente. Mario, vuoi passare tu alla faccenda dei crediti? Ok, perfetto. Allora, come in ultimo, come da tradizione, vi ricordiamo due cose. Usiamo i link di Amazon Affiliate, soprattutto per diventare miliardari e conquistare il mondo, ma come clausola opzionale utilizziamo quello che voi non ci donate, ma Amazon ci dona se utilizzate i nostri link, per migliorare il nostro parco hardware, software e per produrre sempre più roba interessante e avere tempo da dedicare al podcast. Quindi se voi utilizzate i nostri link, comprate oggetti tramite i nostri link, noi vi ringraziamo e avremo sempre qualcosa in più da comprare, tipo i Raspberry Zero che abbiamo quasi in mano. In ultimo ricordiamo che le sigle di apertura e di chiusura sono in Creative Commons, quindi sono state prese da Gian Mendo dall'album dei Pornophonic, quindi sono in Creative Commons 4, li utilizziamo con la clausola di ricordare chi li ha prodotti e dare i loro credit. Ancora per un pochino abbiamo sempre il codice sconto della Udo che dovrebbe essere valido fino a febbraio, quindi se non avete ancora comprato niente da loro, dateci un'occhiata perché sono gli ultimi mesi. Comunque avete il 10% di sconto utilizzando il codice GeekCookies tutto maiuscolo in fase di checkout e avete le spese di spedizioni gratis, quindi come ultimo regalo di Natale ricordate di fare questa cosa. Direi che con questo è davvero tutto. Quindi possiamo ringraziare e chiudere, Francesco? Oh yes, possiamo augurare a tutti i nostri ascoltatori tanti tanti auguri di buone feste, buon Natale, buon inizio del prossimo anno. Se ascoltate dopo le feste sono degli auguri retroattivi. Esatto. Allora, buone feste, mangiate, abbuffatevi che per le diete c'è sempre tempo. Esatto, buon anno e buon Natale, ciao! Ciao ciao!